Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Oggi, 25 dicembre, Natale, mi sembrava giusto cominciare con la mia voce perché poi gli auguri fatti da un Pino a Natale valgono un po' di più, no? Anche se sentite delle risatine intorno, che i Barahona ovviamente non potevo farne a meno delle ciao voci natalizie. Auguri. Verone, che avete dovuto mollare il pranzo di Natale. Però siamo sopravvissuti, sì, alla cena di ieri e al pranzo di oggi. Soprattutto poi siete anche, ma ne parliamo dopo. Però apriamo giustamente con un Boys Anatomy, sì, una sigla un po' più natalizia. Ce l'avete? Sì. Beh, ce la inventiamo. Ma come? Vabbè. Boys Anatomy, Happy Christmas. Ma dai. Boys Anatomy, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Boys Anatomy, very merry Christmas. Boys Anatomy, Boys Anatomy, Boys Anatomy. No, guardate, siete straordinari, però sa tanto di appiccicume, nel senso, non ce l'avevate. No, ma scriverne una doc ci sembrava troppo, dai. È una sigla che si adatta. Questa. Ma non è, siete voi che vi adattate. Anche perché per voi, Boys Anatomy finisce qui. Oh, basta, Barahona, mi accompagnate in teatro, dappertutto, anche in questa giornata, gli amici. Che è Natale. Che è Natale, più vicini, hanno accettato di essere qui con me, però, dai. Non puoi. Ma che volevi, Pino? Ma che c'è, come se io credessi a Gino Paoli, il cielo in una stanza, versione natalizia, fa, quando sei qui con me, Happy Christmas, pari di Jingle Bell, no. Bella idea. Ma che bella idea! Ah no! Allora, dai, però una cosetta di... Vedi, hanno scritto un messaggio, carina la sigla dei Barahona. Ma non è vero, è ironico. Guarda, arrivano tanti buon Natale oggi. Vi ringraziamo. Addirittura uno dice, anche voi lì, come me al lavoro? Però non stai lavorando se ci stai scrivendo. Senti, no, adesso è come l'ospite natalizio vicino a me, che è un grandissimo attore doppiatore, forse fra i giovani più bravi, dopo... Io non sono giovane, ma poi devo fare un passo indietro, sono soltanto il conduttore di questa trasmissione. Dirò il nome e voi fate una sigla natalizia, ma non col suo nome, perché non mi sembra neanche carino. Io normalmente comincio le trasmissioni di Voice Anatomy facendo gli auguri a chi è nato in questa giornata. Mi sembra superfluo dire la persona che qualche migliaio di anni fa ha portato un po' di pace, un po'. Ti vediamo preparato. Vabbè, l'ironia dei Barahona supera ogni... Il mio ospite sta aspettando in silenzio e in maniera molto seria. Allora, prima lo presento e poi andiamo con la sigla e poi lui entra in voce. Allora, lui è un figlio d'arte, la mamma è una grandissima dialoghista, assistente di doppiaggio. Inizia a doppiare a soli 4 anni, pensate, dando la voce a un coniglietto in un cartone. E da lì non si è più fermato. Ha partecipato a numerosi progetti, quali la saga di Harry Potter, Percy Jackson, Spy Kids, High School Musical. È la voce italiana, anche, come dico, di Zac Efron, ma di tantissimi, veramente. E compare anche in tantissime serie televisive, ovviamente. Lui ha soltanto 26 anni, ma ha doppiato più di 500 film, per cui credo che andrà in pensione fra 3 film. Detto questo, dico il nome, lui dirà Buon Natale. Certo, è bello, cioè praticamente sto doppiando i miei ospiti, non è giusto. Allora, signori, Flavio Aquilone. Ciao, ciao a tutti, buon Natale. Eccolo qua, il giovane. Lui, le ragazzine urlano, si strappano. Cioè, succede anche questo, anche con le voci, soprattutto voci di personaggi così importanti. Ma lui veramente gli dà una tridimensionalità ai suoi personaggi incredibile. Ti ringrazio. No, no, assolutamente. Ti chiedo scusa perché adesso loro faranno un pezzo sul Natale dopo la tua presentazione. Vediamo che cosa hanno. Un pezzettino. Mi azzecca garbugli, non so, il Barahona. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Wow. Sono bravi, bravissimi. Bravi, dai. Insomma, se non erano neanche bravi, era inutile, cioè, sono solamente ironici. Flavio, 4 anni avevi. Ebbene sì. Cioè, tu potevi telefonare a un telefono particolare, il telefono verde, no, chiaro, per dire mamma mi manda a lavorare. Ma no, guarda, in realtà è stata una mia scelta, nel senso, anzi, mamma all'inizio era anche un po', diciamo, non era tanto convinta di questa mia scelta. Io la vedevo che lei... Però tu a 4 anni hai chiamato mamma, devo parlarti. Esatto, dobbiamo come parlare, i film mamma. Americani, no? Esatto. Papà, vedi, la vita non va come vorresti che andasse, i film pazzeschi. No, avevo già dimostrato dell'interesse per la recitazione sin da quando ero piccolo e nel vedere lei appunto che scriveva i dialoghi per i film ho detto senti voglio provare a doppiare anch'io, voglio fare la voce di questo coniglietto e lei ha detto guarda ma che cos'era che so ti ricordi il titolo? Allora, sì, si chiama Il Settimo Fratellino ed era un mi è presa già un una tristezza te. A me queste cose di Natale mi mettono, ma era molto triste, la piccola fiammiferaia che muore del freddo, era molto triste infatti, era questo cane che veniva abbandonato sul ciglio della strada, certo, prima di Natale e veniva adottato da questa famiglia di coniglietti, una cosa molto bella in realtà e io ero uno di questi sette. Ah, ma scusi, sei accontentato di uno dei sette coniglietti? Sì, sì, assolutamente. Ma perché queste cose tristissime a Natale sono cose più tristi del mondo, anche nella Scrooge, il Natale del passato, sì, del presente, del futuro, gente che se muore di fame, non è lontano dalla realtà. Fa, ma è bello, per me i film di Natale che tutti dovrebbero vedere a Natale, come i veri americani lo fanno, è La vita è meravigliosa di Frank Capra. Che non mi guarda come guarda quest'altro che non è anche sacco. Io ti guardo con ammirazione. Allora, è un film meraviglioso. Dai, Jim Stewart, bellissimo, che lui si sta buttando di sotto, si butta perché ha delle crisi importanti la notte di Natale, un angelo, potevi mettere la musichetta però quando racconto queste cose, Alessandro che saluto Mauro Meconi, come saluto Alessia Navarro e Milano che ci manda in onda, eccetera. Dicevo, lui si butta, ma quest'angelo lo salva, lui non sa che è un angelo, lui è un angelo che deve ancora mettere le ali. E gli dici, perché? Perché stai facendo questo? Perché non vorrei essere mai nato. E lui dice, veramente? Vuoi vedere come sarebbe stata la vita senza di te in questo paese, in questa città? E lo accompagna all'interno, cioè lo lascia andare, ma nessuno lo riconosce ovviamente perché non è mai nato. Per cui è morto quel farmacista che lui non ha salvato, quel bambino che con lui da piccolo correva, eccetera. La moglie non si è mai sposata, è rimasta zitella, una vita brutta. I suoi genitori, il papà ubriacone, insomma la vita si è dispersa senza di lui, era importante. Lui torna indietro e dice a Clarence ti prego, voglio tornare ad essere quello, ho capito. Lo fa tornare a casa e quel giorno a casa sua ovviamente lo abbracciano tutti come se non si fosse mai mosso, c'è l'albero di Natale, loro hanno tanti debiti, ma fatalità, torna suo fratello da fuori dalla guerra e porta con lui dei commilitoni e comincia a dargli dei soldi. Tutto il paese comincia a versare i soldi a questa famiglia perché capisce che era in difficoltà. Ovviamente tutto questo si esplica durante il film. E alla fine la bambina lo abbraccia, lui trova un libro con una dedica di Clarence e si sente suonare una campanella dell'albero di Natale. La figlia lui dice, ha suonato una campanella. E tu dice, le dice, papà, sai che cosa significa quando una campanella suona? Che un angelo ha messo le ali. E lui ride guardando il cielo. Beh ragazzi, io ancora ci piango. Qui lacrime. Sì, no, la vita è meravigliosa. Frank Capra. Volete viene, papà... viene in mente Modugno. Vero, sì. Credete, mi è accaduto di notte sopra un ponte guardando l'acqua scura. È vero. Con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Ma un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante. Bello. Mi porto via dicendomi così. Citazione doverosa. Beh, giusto. Sei in degna compagnia, Fabio. Sì, devo dire, sono molto contento. Ma dopo questo coniglietto, che è successo? Dopo questo coniglietto è inaspettatamente iniziata una carriera. Beh, diciamo, all'inizio è stato un gioco, ovviamente. Certo, ero veramente molto piccolo. Quindi anche perché avevi ancora 12 vocaboli. Cioè, quelli no, che hanno un chiacchierone. Ma io da bambino ero un chiacchierone. Non ho dubbi a pensarlo. No, questo. Ti giuro, molto peggio che oggi. No, che c'entra. Anzi, poi crescendo mi sono anche un po' calmato. Crescendo è la parola giusta, che voi non lo vedete perché è radio, ma è alto 2 metri. C'ha 4 femori. Cioè, non so, quando sta davanti al leggio con un'altra persona, devi mettere veramente in braccio a qualcuno. Sì, sono per una condanna per gli altri attori. Eh sì, perché per te il microfono sta a un'altezza, sì, e l'altro deve raggiungere la tua altezza. Sì, esatto. Che non è possibile perché si rompe il soffitto, bene o male. Soprattutto le donne devono sempre stare sul panchetto, infatti io sì, il panchetto che ci mette vabbè, dai, insomma, ci sta anche questo. Per cui dopo il coniglietto è cominciata questa carriera. Esatto. La prima grande soddisfazione me la dici fra un po' perché manca soltanto un minuto alla fine di questo primo blocco che abbiamo ovviamente introdotto questo gruppo straordinario. Sentiamoci un pezzetto di Le Cronache di Narnia, per esempio, dove tu doppiavi William Moseley. Yes. Si pronuncia così, vero? Giusto. Perché io l'inglese ho alcuni problemi. Meno col francese. Bugia, vai. Se tu avessi rispettato il piano, quei soldati potrebbero essere ancora lì. E se tu fossi rimasto qui come ti avevo suggerito, lo sarebbero di sicuro. Ti ricordo che ci hai chiamati tu. Il mio primo errore. No. Credere di poter guidare quella gente è stato l'errore. Ehi! Non sono certo io quello che ha abbandonato Narnia. Tu hai invaso Narnia. Non hai il diritto di governarla come non ce l'ha Miraz. Tu, lui, tuo padre. Narnia sta molto meglio senza tutti voi. Mettetela! Credo che sia slogata. Secondo te che succede a casa se si muore qui? Ebbene sì, per chi non se ne fosse ancora accorto, anche quest'anno è arrivato. Io sono Stefano De Sando e con tanto di chitarra in mano. A tutti coloro che amano la radio e che ascoltano con affetto e impegno il nostro Pino Insegni in Voice Anatomy, auguro un buon Natale, buon Natale, buon Natale a tutti. Ciao. Ciao Pino, sono Luca Dal Fabbro, volevo augurare a te e a tutti quanti gli ascoltatori fruitori di Voice Anatomy uno splendido, felice e sereno Natale. Buon Natale e soprattutto volevo anche farvi gli auguri per il 2017, questo 2017 che sta entrando prepotentemente, un 2017 che spero sia sereno, bello, gudurioso, lussurioso e con tante cose belle. Come dico sempre io, buon anno, perché un po' di fortuna non guasta mai. Ciao ragazzi! Voice Anatomy e questo Natale è appena cominciato. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, Natale, buon Natale a tutti di cuore e vicino a me i Barahona che mi accompagnano in questa bella avventura natalizia e il bravissimo e altissimo Flavio Aquilone con il quale abbiamo cominciato a percorrere la sua incredibile carriera visto che è cominciata all'età di 4 anni. Beh, ce n'hai 26, sì. Però quanti film hai doppiato finora? Tanti, anche se il tempo vola, ogni tanto risento cose doppiate 10-15 anni fa e dico, oddio, ho già passato così tanto tempo. È vero, non sì. Mi guardare così. Ma sono, guarda, tempo, sono ma già in quella poco. Fase, in ma quella non fase è in cui guardo i film vecchi e dico, oddio, tu hai fatto oltre 500 film, sì. Cioè i 26 anni. Sì. Non è giusto, nei confronti di un uomo di 57 e il Barahona, no, i fratelli Caporale hanno un'età giusta, ma le sorelle Sergenti non hanno nessun tipo di... sono giovani anche loro. Io ho chiesto ai nostri colleghi di mandarci gli auguri di Natale, visto che di voce si tratta, senza fargli interpretare ovviamente il personaggio a loro attaccato, mm-hmm. Ma proprio come nome e cognome, perché mi sembrava spersonalizzante. Ciao, sono Tom Cruise, auguro... anche se era divertente, devo certo. Dire. Però insomma, adesso non so, random manderemo insieme a Alessandro, aiutato dai nostri autori, manderà adesso alcuni di questi che non so perché ce ne abbiamo registrati tantissimi. Vai Ale, sentiamo chi ci fa gli auguri. Augurissimi di Buon Natale a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy da Sandro Acerbo. Ciao, sono Pasquale Anselmo e volevo fare gli auguri di Buon Natale a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy. Buon Natale a tutti, ciao. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy. Buon Natale da Alessandra Cassioli. Ecco, questi erano i primi te, prima Sandra Cerbo che è il nostro Brad Pitt, Will Smith eccetera, poi Pasquale Anselmo che è bravissimo, poi ha vinto ultimamente il campionato internazionale del doppiaggio con la serie Better Call Saul, ma insomma lui ha doppiato tantissimo, poi Alessandra Cassioli, una voce nera per eccellenza, anche lei bravissima eccetera. Tu invece avevi due candidature straordinarie, due nomination, sì. E come Meryl Streep hai perso, insomma, hai perso anche poi come Julian Moore, insomma, esatto. Ma c'hai dei degni. Tu avevi iRobot, che è una serie bellissima, che Mr. Tu Robot, sì. Mr. Robot, scusa, iRobot era il film con Will Smith, e poi per Danish Girl sì. Ma che film. Beh, bellissimo. Sono diciamo due personaggi molto diversi, ma l'attore non lo pronuncio, Eddie Redmayne. Ti ringrazio. Sì, lo stesso della Teoria del Tutto, dove invece lo doppia era Davide. Era il mio collega Davide. Davide Perino, che verrà prestissimo. Era il mio Frodo nella compagnia dell'anello. Era Frodo. È rimasto alto così lui. Veramente. Non potrete mai doppiare voi due insieme. Capita spesso. Però tu hai fatto questo Danish Girl, bellissimo. Ce lo sentiamo un attimo il trailer, poi voglio fargli recitare invece dal vivo alcune frasi di quel film che io vi consiglio assolutamente. Intanto sentiamo il trailer di The Danish Girl. Quando ci siamo conosciuti ha fatto lei il primo passo. Sembrava così sicura. Ero sicura. Lui era timido e misterioso. C'è qualcosa che vuoi dirmi? C'è qualcosa che vuoi sapere? Io sono tua moglie. So tutto. Ho bisogno del tuo aiuto. Non dovrai mai farne parola con nessuno. Cos'è successo ieri sera? Per un momento ho dimenticato me stesso. Per un momento sono stato solo Lily. Ma Lily non esiste. Era solamente un gioco. Qualcosa è cambiato. Si è smarrito. Ha bisogno di un amico. Fatti aiutare. Io penso con la mente di Lily. Sogno i suoi sogni. C'è sempre stata. E voglio mio marito. Ho bisogno di stringermi a lui. Vai ragazzi, questo era soltanto il trailer, che quando uno lo doppia neanche sa di cosa parla il film a momenti, ma un film pazzesco, di una bravura sei stato. Grazie. Quello è stato veramente un pezzo di cuore, quell'esperienza. La storia, racconta un attimo la storia di questo film, perché è bella la trama, anche per invogliare i nostri amici, perché insomma la radio serve anche a veicolare, certo, un buon libro, un buon film. Questo è un film che io consiglio sempre a tutti, perché è un film di un'intensità incredibile, proprio. Poi sulla diversità. È un tema molto... Un momento non sospetto, sì, così moderno. È un tema, esatto. È la storia, la vera storia di uno dei primi, o forse la prima transgender, il primo uomo che decide di percorrere questo percorso, sì, quindi di sottoporsi a un intervento di riassegnazione sessuale. Beh, riassegnazione sessuale. Neanche col libro dei sinonimi e contrari l'avrei detto. Quando la disforia di genere ovviamente non era ancora conosciuta, ecco, quindi in un'epoca abbastanza non sospetta. Salutate Flavio Aquilone, perché mi sta mettendo in difficoltà chiunque, anche disforia. Gli stessi ascoltatori di Radio 24 che mi riprendono per dire vabbè, basta Pino Straordinario, hai detto 7 volte, no, cambia. No? Devo dire, ci siamo documentati molto prima di fare il film. Ci credo, non dire come finisce, no, perché comunque, anche se è una storia vera, ovviamente è giusto, no. Non... Comunque è stata veramente una delle esperienze più belle della mia vita. No, anche perché il percorso anche vocale è stato interessantissimo, dalla brillantezza di un uomo al gioco di diventare Lily per sua moglie e poi volerlo essere. E al dramma essere. Di scoprire di essere sempre stata Lily. Esatto. Aiutato da una direzione fantastica, Mario Cordo, assistente Silvia Alpi, Federico Costantini il Foglio. Sì, perché bisogna dirlo, è un lavoro sempre d'equipe. Una grande equipe. E poi il bello di questo film è stato avere il tempo di recitare tutti insieme, che è una cosa che non è scontata in questi periodi, dove in genere si cerca di fare meno turni possibile ed avere un solo attore singolo. Sì. Allegio, invece siamo stati veramente una grande squadra, abbiamo sofferto insieme a lui. Lei chi era? Che dopo... Valentina Favazza, straordinaria Gerda. Sì, la moglie, insomma. Sì. Esatto. E poi c'era Alessandro Quarta, Edoardo Stoppacciaro, Domitilla D'Amico, insomma. Tutta gente così. Esperienza. No, vabbè, ma tanto il doppiaggio, questo è, sono tutti grandi professionisti. Adesso, però, ho visto che... ho trovato alcune frasi tratte dal film. Ma sai, la difficoltà è stata anche il cercare una chiave insieme per non perché prima la voce scadere nella macchietta. Esatto. Quando si fa un personaggio così è abbastanza facile eccedere e tradire l'originale. Sì, sì, invece, assolutamente, lì sta la prova del direttore che sa coordinarti e sa che ha le idee chiare. Sì, sì, anche noi quando abbiamo doppiato Stonewall, insomma, un film, il primo film sulla la lotta ai diritti gay, è la giornata che si ricorda, è diventato il Gay Pride, proprio per quella giornata dove morirono tantissime gay, lesbo, eccetera. Per cui il rischio era diventare ehi, ciao, sì, certo, capito? Certo. Era un gioco, no. Invece si è studiato proprio la drag queen come parla, il transessuale come parla, il gay come parla, e si è giocato. E voi avete fatto un lavoro straordinario davvero. Io qui... Come al solito, tu non lo sai perché non l'hai già letta, ma la bravura è quella. Ti metto però una musica, mi metti in una situazione... Sì, grazie, The Hours di Philip Glass, non è male su questo. Guarda, sono un po' di frasi. Me ne fai 3 adesso e 3 nel prossimo blocco, dai. Concentrati. Cosa ho fatto per meritarmi tanto amore? Non c'è niente da aver paura ormai. Ieri notte ho fatto un sogno bellissimo. Ho sognato di essere una bambina nelle braccia di mia madre. Lei mi guardava negli occhi e mi chiamava Lily. Io ti amo perché sei l'unica persona che mi ha reso possibile. Che bello. Beh, vabbè. Adesso cercare, diciamo, di ritornare nel personaggio. Sì, nel personaggio. No, vabbè, questo hai trovato. Anche perché c'è da dire che in sala ero aiutato da lui, che è straordinario. Eh sì. E quindi anche l'onore di doppiare un attore così immenso, diciamo. Sì, non riesce a sbagliare un film, sia che fa il film con gli animali preistorici, i mostri, sia che fa la teoria del tutto. È veramente, insomma, straordinario, sì. Non era facile. No. Normalmente, sì, secondo me è più facile recitare e fare lo storpio che parla male, eccetera, che magari il dottore e vincere un Oscar come dottore, certo, normalmente. Però nella teoria del tutto lui ha un'evoluzione, sì, sia di vocale che fisica, insomma. Infatti dopo, quando verrà Davide Perino, ne parlerete. Sì, ne parleremo sicuramente. No, bene, allora siamo arrivati anche alla fine di questo blocco. I Baron non li sto facendo cantare. Vogliamo mandare... No, ci non li faccio. C'è Mauro Meconi che mi fa segno. No, falli cantare. No. Hanno cominciato in quel modo controcorrente. Sì, poi Sanatomi mettendo in alto Happy Birthday. Tu, dai, non si fa. Quello così è per il compleanno, Pino. Merry Christmas. Allora, non cantano neanche il blocco dopo. Pensa, è incredibile. Era riciclare qualcosa. Ma non era riciclaggio, è brutto. Ecologico, ma anche nei confronti. Lui non ha riciclato una voce che non usava, no. Io li voglio sentir cantare. vabbè. E allora dai, uno stacchetto avanti. I'm dreaming of a white Christmas. Beh, vabbè. With every Christmas card I write. Brividi natalizi. Days be merry and bright. Christmases be white, Christmases be white, Christmases be white. Boom. Per rovinare l'atmosfera natalizia. Ci voleva il basso, il basso. Esatto, però magari un Babbo Natale. Smettetela, a tra poco, Voice Anatomy. Ciao, sono Roberto Draghetti e anch'io ascolto Voice Anatomy. Ok, bando alle sciocchezze. Tanti auguri a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy e un bacio a te, Pino, dal tuo compagno d'asilo. Ciao. Ciao a tutti, sono Roberto Chevalier e vi auguro un buon Natale e delle feste meravigliose. A voi che siete i super ascoltatori di Voice Anatomy. Un abbraccio, ciao! Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, sempre il vostro Pino Insegno, Radio 24, sempre Natale, sempre Pino. Mi piace il fatto che mi chiamo Pino a Natale, è l'unico giorno che mi piace che mi chiami Pino, insomma, in qualche modo. E come abbiamo fatto prima, vi abbiamo fatto ascoltare alcuni colleghi, attori, doppiatori, che vi fanno gli auguri di Natale con il loro nome e cognome. Cercherò magari di aiutarvi anche raccontandovi chi sono in realtà. Poi ormai avete imparato a conoscere, li conoscete meglio voi di me ormai. Vediamo chi c'è questa volta che fa gli auguri. Un caldo augurio di Buon Natale dal vampiro più sexy del mondo. Auguri da Stefano Crescentini. Ma vi rendete conto? Agli ascoltatori di Voice Anatomy. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Stefano, Crescentini e Twilight, Edward Cullen. Che una volta, quando ho presentato l'anteprima di questo film, lui non è bello come... Verrà ospite, per cui glielo dirò anche direttamente. Non è bello certo come Edward Cullen, come magari non lo siamo noi, come tanti altri. Però la voce c'è. E quando lo presentai quel giorno, proprio perché c'è grande affetto, dico: signore, ci sono mille ragazze impazzite di questa anteprima mondiale dell'ultimo capitolo di quella saga. Io dico: sta per entrare la voce di Edward Cullen. Dico: chiudete gli occhi e non riapriteli. Scherzando. E lui entrava sempre molto ironico. Come sì, questi... è fantastico. Sì, sì, come questi auguri. Ma poi faremo, grazie a questa bellissima idea, di creare gruppi di attori doppiatori di un film, cioè puntata dedicata a Harry Potter, tutti quelli che hanno doppiato Harry Potter, insomma, tutte le saghe più importanti. Ti ricordi Twilight il teatro con noi, che risate? Sì, quello, io faccio la presa in giro di Twilight, no, ma racconto vedendo lo schermo, faccio vedere alcuni spezzoni del film e dico i motivi di questo successo, insomma, tu capisci, in una rilettura vedendo il pezzo, dove ad esempio, ecco, loro vivono in questo paese nel Maine, eccetera, dove ci stanno 160 abitanti. È una chiave interessante. Di cui 120 sono vampiri, 40 sono meccanici, c'è un mini lupo, uno c'è un negozio di alimentari che ha chiuso, dice che cazzo sta per fare. E poi c'è e poi, ah scusate, è Cruciani Radio 24, è Cruciani che ma cioè, ogni tanto entra lo spirito, esatto, mi entra dentro e dico una parola, vabbè, scusate. E lei e il papà che vivono normalmente in questo paese, insomma, poi, e lei siete fidanzati o con uomo lupo o con vampiri, cioè, non aveva molta scelta, no, ma soprattutto lei non si accorge che so vampiri mai, cioè ti invitano a casa sua, te tagli, casca sta goccia di sangue su e succede il panico là dentro. Lì dici una domanda. Capito, fatta la risposta. Anche perché lui, per salvare lei, dà una gomitata in bocca, la manda addosso al camino per non farla mozzicata al fratello, che sono pazziti tutti per sta goccia di sangue. E lei, anzi, chiede pure scusa per aver macchiato il tappeto, capito? Non... Carina. Carina, capito? Anche lui dice, ti fidi di me, anche successo pure al Titanic, sapete come è andata a finire? Sa mette a cavaceccio, come si dice a Roma. Vatte a fidarsi, dice a Roma. Capito? A cavaceccio sulle spalle, se la mette e fanno albero albero tutto il parco. E lei pure lì dice, ammazza, che fortuna, adesso ha tanta palestra, insomma, è uno... Io ho detto con quella cosa, dicevo sempre, avremmo risolto il traffico nelle grandi città con la famiglia Callan, tu te fai a Roma, caso al muro torto, te fai albero albero, Villa Borghese, ci metti beh, un attimo. Sarebbe comodo. È comodo, chiami la famiglia Callan. Arrivare al turno in orario. Beh, uno da famiglia Callan, è sopra, per cui c'è questo ricordo del nostro spettacolo. Allora, altri auguri, sì, certo, scusate. Il Natale agita una bacchetta magica sul cuore di ognuno di noi e improvvisamente ogni cosa ci appare più soffice e bella. Un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy. Buon Natale da Domitilla D'Amico. A presto, ciao. Beh, abbiamo già avuta ultimamente proprio in trasmissione Domitilla, Scarlett Johansson, tutti, insomma, c'è la voce. È come Flavia Aquilone, è il Flavia Aquilone al femminile. Wow, beh, sono onorato. Beh, io sì, Domitilla la considero veramente nell'Olimpo. È brava, brava, brava, simpatica anche lei. Ne vogliamo sentire un altro augurio o no? Va bene? Ok, vai. Ciao a tutti, sono Dario Penne. Vabbè. E vi auguro una buonissima serata e un buon ascolto a tutti voi ascoltatori di Voice Anatomy e soprattutto un buon Natale. È un meraviglioso anno nuovo. Ciao a tutti. Hannibal Lecter e non so, un grande Anthony Hopkins su tutti, a parte dove lo metti sta. Sì, straordinario. Sta bene dappertutto, anche lui. Lui ha doppiato meno film di te, però. Non credo, non credo. Ma guarda, non lo so, Aquilone, lei mi vola alto, sarà il cognome, ma lei, senta, dottor Aquilone, mi legge altri quattro momenti brevi e così finiamo questa... su The Danish Girl, che io continuo a raccomandarvi come film, guardatelo, amatelo, con molto piacere, perché è una cosa bellissima. Prego. Non preoccuparti, non scomparirò nella palude. La palude in me sciocca. Tu hai sentito il mio desiderio quando nessuno poteva capire. Tu hai capito. A Parigi una donna non si sognerebbe mai di spruzzare il profumo su se stessa. Lei lo spruzzerebbe nell'aria e lo attraverserebbe. Questa era una frase proprio bella, caratteristica del personaggio di Lily. Sono già finite? Sì, sono finite. Mi puoi rifare tutto il film? Mi dispiace. Che bello, io credo che un buon audiolibro anche dei film... È una cosa che amo moltissimo. Posso fare una domanda? Assolutamente. Visto che io sì. ho amato particolarmente questo film, sì. Perché anche perché mi ha fatto piangere come non mai, ma nel senso che dici. Mi ha colpito, non di pietismo, una cosa sì, bellissima. Sì, sì, bello. Volevo farti una domanda che poi è anche una considerazione. La voce del personaggio, secondo me, più che... Cioè, è stata... Tu, secondo me, hai messo in luce più che la difficoltà dell'identità del personaggio, dell'identità sessuale in questo caso, mm-hmm. la fragilità umana del personaggio. A me quello mi ha colpito, anche risentendolo me l'hai ridata questa sensazione, che non è tanto il che cos'è la scelta, no, ma il dolore interiore, appunto, la sofferenza, quello è stata una bella ricerca vocale, bravo, vero. È stata diciamo una ricerca di gruppo, come spiegavo prima. Ovviamente abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile all'originale e lui aveva proprio queste corde molto sofferte dentro, proprio perché lui ha ben chiaro che cos'è, lui lo capisce durante il suo percorso che cos'è. Il problema ovviamente è tutto quello che ne deriva, le conseguenze, certo. Supportato comunque da una grandissima figura che è quella della moglie, che nonostante l'epoca è molto moderna, accetta questa trasformazione del marito e anzi lo accompagna. Sì. E non diciamo altro. Dai, esatto. No, veramente sì. Bello, mi fa piacere perché poi Voice Anatomy vuole raccontare anche questo. Insomma, ovviamente sono attori, doppiatori, cantanti che bisogna evitare di raccontare ogni volta, raccontiamo la voce in tutte le sue declinazioni, è ovvio, sì. È di default la trasmissione, sì. Da questo punto di vista, ma il lavoro fatto, chiunque riesce a vedere un turno di doppiaggio rimane veramente stupito. È come un turno anche musicale, tutti si aspettano, sentono il CD, dico ok, è andato lì, ha cantato, sei andato. Non sanno che lavoro certosino da intagliatore di diamanti c'è dietro all'esecuzione di un brano, di una canzone, perché poi la semplicità fa apparire tutto semplice, ma proprio come la parola. Invece, lo dico sempre, come al circo fanno finta di sbagliare quando fanno il triplo salto mortale per far capire alla gente quanto è difficile fare il triplo salto mortale. E allora quello che chiedo sempre ai Barona, sbagliate mentre cantate. No, ma veramente, perché sembra che sia registrato. E anche se è il doppiaggio, quanto ci mettete a doppiare un film? E uno gli dice... Dipende. Esatto, metti da solo 3 giorni. E dice solo, scusate, sono 9 ore al giorno. Esatto. Per 3 sono 27 ore, un film dura 1 ora e 40. Il tuo personaggio quanto può parlare attaccato? Mezz'ora? Ecco, 27 ore per fare mezz'ora. Per cui pensate che il lavoro certosino c'è dietro a tutto questo. Infatti chi viene in sala rimane affascinato. Certo. E non è un caso che se a tavola c'è un medico o un doppiatore si parla o delle malattie o del doppiaggio in qualche modo. Per cui è bellissimo. Poi, ecco, da questa cosa romantica, difficile, intensa, mi passa Zac Efron questo, capisci? Cioè, andiamo su Zac Efron, che è proprio tutto meno che romantico, sofferente. Beh, diciamo, i suoi esordi con High School Musical erano abbastanza, abbastanza romantici. Ho capito, ma insomma, stiamo parlando di High School Musical. Che però è stato un successo assolutamente incredibile, anche quello incredibile. Planetario, quindi è stata una saga che l'ha lanciato, poi lui, diciamo, ha scelto... Tutte ne sei fatte le saghe, adesso non voglio entrare nella tua gioventù, ma no, nel senso Harry Potter, insomma, tutte queste Hunger cose. Hunger Games, è vero, eri ad Hunger Games, mi sfugge... Ero Gale. Ah, è vero. Io sono morto al secondo, ero lo stilista, il cantante. Come no, Lenny Kravitz, certo. Sì, sì. Sinna. Ah, Sinna, cioè, Sinna. Ma come Hunger Games? No, ma chi lo tocca Hunger Games? Però, insomma, me sono morto, ero lo stilista. Va bene, ascoltiamo un momento, anche se è un po' fuori, sono due parolaccette, ci sono, ma non ho scatenato, è l'ultima fatica, per modo di dire, di Zac Efron. Ascoltiamo un attimo Aquilone all'opposto, e questo è farvi capire anche che tipo di escursioni vocali ci sono e di interpretazioni all'interno dello stesso uomo tripolare. Prego. Quindi fai l'avvocato? Mi occupo di cose eccitanti come la tutela dei dati personali. Non mi dire. Mozioni di rinvio. Accordi per le licenze. Sai che cosa farei io? Cosa? Implorerei Rapunzolo di dall'alto della sua torre del Noi andiamo a Daytona. Se volete potete venirci dietro. In tutti i sensi. Non ci andiamo a Daytona. Il funerale di nonna è stato ieri. È lei che me l'ha detto sul letto di morte. Ributtati nella mischia. Sono 15 anni che non faccio sesso e voglio fottere. Ora vomito. Ci godiamo lo spring break? No, non posso bere alcol. Soffro di reflusso gastroesofageo. Devi farti una birra e non fare un po'. Ops, di solito non mi succede. Di solito mi avvertono. La mia fidanzata, devo rispondere. Mandala a cacare. Se te la sposi ti farai due palle e così. Beh, vabbè, insomma, è Natale. Bueno, piccoli, per il cinema qualcosa abbiamo coperto, che sapevamo. Ma insomma, vabbè, anche questo è Natale, no? Se vuoi gridiamo un jingle bells. In però, perfetto, esatto. Clima natalizio, esatto, direi. Per par condicio. Esatto, asciughiamo un attimo qualcosa di molto, molto, molto... D'altra parte è De Niro che parla, è il nostro amico De Sando, sì. Ovviamente, che lo doppia splendidamente. In questo ruolo atipico, se posso... Sì, devo dire che qualche volta De Niro potrebbe dire pure di no, un film, cioè, potrebbe dire no, grazie, non lo fa. No, vi ricordo che ho fatto Toro Scatenato, ho fatto... C'era Nord America, dai. Il film è anche peggio, nel senso che durante proprio le fasi del doppiaggio abbiamo pure detto ma passerà questa cosa secondo voi, ma l'accetterà, però il doppiaggio è quello, come dice Alessandro, deve pagare il mutuo, ma che mutuo c'ha, cioè dai, cioè, quanto pagherà al mese Montenero nella casa Beverly Hills? Sentite, sì, ammorbidiamo, torniamo a natalizio un attimo, torniamo a natalizio, ti prego, sì, anche perché Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle around the clock. Così ci vogliamo tutti mixer più bene. Mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Yeah. Però dovremmo riprendere queste, Mauro Meconi, queste cose e metterle sul sito. Ma ecco, vi ricordo Facebook, venite in tanti, ma cliccate mi piace, forse perché non vi piace, però insomma, fatelo, ormai si vive di mi piace, di like. Tu vivi, sei connesso, sei... Ma io in realtà sono poco social, se posso... Tu dovresti essere un po' più social, perché c'hai 26 anni e poi con i personaggi che doppi... No, no, sono attivo su Facebook, rispondo alle persone che mi scrivono... E sono tante però... Sì, mi scrivono in molti, però diciamo che forse dovrei essere un po' più presente, a volte non entro per settimane... Ma non è facile, no. Anche perché poi c'è gente che dice, come va? E tu gli rispondi, bene, tu, allora che fai? Amore mio, non possiamo andare avanti così. No, cioè, devo dire, domanda sono molto carini, anche perché spesso fanno domande molto pertinenti, sono domande anche tecniche, quindi ti stupiscono, dicono, ah, vedi, per una persona che comunque non si occupa di questo ambiente, come possa chiedere una cosa così specifica. Certo, no? Hanno una curiosità molto intelligente. E poi sono preparatissimi. Sì, siccome i nostri ascoltatori di Radio 24 sanno tutto, ogni tanto mi dimentico persino io, mi ricordano loro, vedi, delle cose. A proposito, grazie a tutti gli auguri che ci state mandando. Grazie. Veramente grazie dell'affetto. Non c'è nessun messaggio cattivo oggi, ma è difficile, sempre forse solo perché uno. Perché è Natale. Si vendicano, l'anno nuovo accumuleranno sicuramente. Poi i nostri fedeli sono sempre vicini. Allora, manca un minuto e 20 secondi, poi rimarrà ancora un altro blocco insieme a noi. Molto volentieri. Blocco è un termine tecnico che racconta. Io, ecco, faccio Mauro Meconi, Alessia Navarro, si arrabbiano che dice noi prepariamo le domande e tu le bypassi. No, le modifica a secondo del momento. Parlavamo di Zac Efron, allora tu lo doppierai per sempre? Sì, beh, l'hai sempre doppiato tu. Ma in realtà non l'ho sempre doppiato io, ci sono in alcuni film in cui è stato Andrea Mete a doppiarlo. E Dane DeHaan chi è? Dane DeHaan è un attore che io adoro e che sto doppiando adesso in questo. È bravissimo. Sì. Che cosa ha fatto? Lui era The Amazing Spider-Man. Faceva Goblin. Goblin. L'antagonista, esatto. E al cinema stai doppiando in altre cose adesso? Adesso lo sto doppiando in Cure for Wellness. Un film. Cioè, sei stato un attimo. Un film dallo stesso regista di The Ring. Per cui. Un thriller abbastanza psicologico, ma molto interessante. Che molto paura interessante. The Ring. Che The Ring è uno si aspetta che è la storia di un box, è un boxer, no? Che fa invece no, è una cosa paurosa. E poi, diciamo, il primo film in cui l'ho doppiato è stato Chronicle. Il film Chronicle. Stavo pensando, esatto, a Narnia. Dove c'eri anche tu? Certo, mio padre. Ero tuo padre. È vero. Era tuo padre. Strano, l'età non era la giusta, secondo me. Però potevi fare mio fratello. Sì, fratello da madre. Ma padre potevo pure non farlo. Va bene, meno male, è finito il blocco. Nonno. Zitto. Ma perché esci sempre così, caporale? Vito, questo è Vito. È veramente cafone. Anche a Natale. Ecco, non arrivano messaggi cattivi, ci pensi tu a rompere. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy. E un felice e sereno Natale da Laura Boccanera. Un abbraccio forte e tanti auguri. Salve, sono Mino Caprio e auguro a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy un buon Natale di amore, pace e serenità. Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy, al mio fianco sempre il bravissimo e educato, intelligente, ma guardate, ho finito le cose, non è perché è Natale, Flavio Aquilone, grazie davvero della grazie tua a voi. Grandissima disponibilità, grazie, no, è Barahona, no, stavo dicendo grazie a Barahona, ho sbagliato, grazie invece, continuo a dire Alessandro che è qui, anche lui a Natale, grazie ai miei autori, amici Mauro Meconi e Alessia Navarro, grazie a Milano, nei nomi di tutti che conosco poco, però so che sono loro per fare pubblicità messa in onda, insomma è una famiglia grandissima quella di Radio 24. Allora sentiamo altri auguri, Alessandro, e scopriremo chi sono insieme, prego. Ciao, sono Emanuela Rossi, auguro a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy un caldo Natale, auguri a tutti, baci. Anche se un po' disturbato col telefonino ovviamente, però Emanuela Rossi, Michelle Pfeiffer, Cate Blanchett, insomma Il caldo Natale detto da lei funziona. È un caldo Natale. È un caldo Natale, scalda dai. Davvero il cuore. Bisogna fare le applicazioni. Ma che devi commentare, capito? Ma devi cantare, commenta. Ma sei scalda, ospite musicale. Scalda, ma non te, è che adesso che, come se Flavio all'improvviso un termometro naturale. Capito? Tu sei ma stai buono, come se Flavio cominciasse a cantare all'improvviso, non lo fa. Ma noi parliamo, scusami. Voi cantate, tu soprattutto, gli altri possono parlare, Daphne, eccetera, Eleonora, Delio che ha fatto una domanda interessante e intelligente. Tu hai solo commentato, a me, vabbè, Babbo Natale, bene, lo potevi sai, fare, bene. Capito, ma dimostramelo in un altro modo, capito? Ma non è possibile, ma l'orchestra di Arbore non è che parlava. Cioè, se lui chiedeva, ah, ammazza, diceva, parlava. Diceva, non è che interveniva durante un'intervista seria. Sente... Di solito io faccio le facce, però non posso farle. Quindi sì, devo in teatro fa le facce, io lo metto al buio perché distrae. È una cosa tra l'altro siamo in teatro stasera. Ah, è vero, voi siete in teatro già da un po' di giorni con abbiamo nostro... debuttato il 13 dicembre. Maurizio Battista. Con Maurizio Battista siamo al Teatro Olimpico. Non avete bisogno di fare pubblicità. È tutto sold out, fino al 15 di gennaio. Com'è orgoglioso! Ma grazie a Maurizio, no? Non è quando lavorate con me, non è che dice tutto sold out, grazie anche fino a insieme. Tutto sold out. È buono, tu non lavorerai mai più. I Barona saranno tre, non più quattro. No, assolutamente. Senti, direttore di doppiaggio, dialoghista come mamma? Ma guarda, vediamo adesso, nel senso che... forse nel futuro... Che io sì, saluto, senso... Novella Marcucci, grazie a lei ho fatto il mio primo turno di doppiaggio 36 anni fa, dicendo sì signore. Lei era l'assistente del grandissimo Mario Maldesi, sì. Sembra giusto ricordare mamma, citarla. Anche perché è più alta di me come te, per cui non citarla, rischio. Dialoghista non penso. Ma è proprio un altro mestiere. È proprio un altro mestiere, sì. E direttore vedremo, nel senso, sono ancora giovane, quindi... Ma dai! Per ora diciamo che vorrei ampliare le mie esperienze come attore in video. Teatro, quello... cinema... Anche fiction, il teatro l'ho fatto quando ero più piccolo. E quello non devi dimenticare. No, hai ragione, è stato un grande errore. È stato un grande errore lasciare il teatro. Perché poi uno si siede sui tre turni al giorno e dice chi me lo fa fare, andare in giro, da fare teatro, eccetera. Ma, però in questi anni ho fatto esperienze molto interessanti che mi hanno fatto capire, insomma, che c'è anche altro oltre al doppiaggio. E certo, ho girato anche le fiction, insomma, uno come te che sa recitare, lo urlo, che sa recitare... e che non parla sfiatando come gli attori delle fiction, non tutti ovviamente, non voglio massificare degli attori invece straordinari, però sono più quelli non straordinari e uno quindi come vedremo, te dovrebbe chissà, far parte magari nel futuro anche la direzione ci sarà per parlavo non... ci... però sicuramente succederà e tu mi chiamerai a fare il nonno no il fratello giovane dell'altro che ha 98 anni perché lui ha 72 e Harry Potter un'altra saga di gran successo e anche qui un personaggio completamente diametralmente opposto agli altri Zac Efron musical school musical nonno eccetera il grande di Danish Girl che poi Eddie Redmayne come si pronuncia esattamente? Eddie Redmayne. Redmayne, molto velocemente. Eddie Redmayne. Tu dillo velocemente. Eddie Redmayne, che è bravissimo. Dove c'è questa grandissima intensità, come tante altre cose che hai fatto. Poi Harry Potter, il cattivo. Quello è stato Draco. Il primo antagonista che ho fatto nella mia vita. Avevo 11 anni quando ho fatto il provino vedo, per Draco. Siete invecchiati con loro. Siamo invecchiati insieme, esatto. E poi lui ho continuato a seguirlo anche negli altri progetti che ha fatto. Ah, ha fatto altri film? Sì, devo dire, quasi sempre il personaggi antagonisti. Sì, l'hanno un po' relegato in questo ruolo da cattivo, però funziona molto in quel ruolo perché lui è proprio questa. Sì, cioè, è arcigno, sì. È un biondo rosso. No, rosso è quella del biondo lui, la sì. Famiglia di maghi. Non ce l'abbiamo registrato qualcosa perché giustamente non si riesce a tagliare, bisognerebbe scaricare tutto il film, prendere il pezzetto, non è povero Mauro Megoni, lo ricoverano anche perché fa anche altri lavori a parte essere anche autore. Però io ho alcune frasi qua di Draco. La musica ce l'abbiamo di Harry Potter, Alessandro? Dai, cercala, allora cerca un attimo. Joe Williams è il tema di Harry Potter, però l'hanno fatto un po' tutti, ma... La base è Joe Williams. Poi sto facendo pure un altro Guerre Stellari però c'è Joe Williams. Però non è il seguito di Guerre Stellari, è uno spin-off. È un... No, così non ci si capisce più niente. Fanno le storie parallele tante dei film. Tante saghe, tante. Sì, è un po'. succedendo al cinema quello che succede nelle serie televisive. Esatto, cioè ormai c'è il televisivo, il seriale, sì, esatto, per il cinema. Sì, la costola dello spin-off, sì, di un personaggio minore che diventa protagonista, racconta la storia parallela della sua vita. Ultimamente che stai doppiando, a parte, si può dire? Guarda, sai, ogni volta che noi firmiamo degli accordi di riservatezza, sì, tremiamo, no, nel senso, sì, no, non devi dire, si potrà dire. La trama non la diciamo, però insomma. Beh, sono tornate diverse serie televisive, adesso sto... Robot è stata la terza stagione. È la seconda. La seconda stagione di Mr. Robot la stiamo doppiando in questo periodo, anche se ci siamo interrotti, vabbè, per la pausa natalizia, ovviamente. Beh, riprenderemo a gennaio. Sì. e quindi adesso riprende Teen Wolf, abbiamo ripreso Teen Wolf. È vero, Teen Wolf e tu sono mille anni. È la sesta stagione. A posto è arrivato un messaggio che faceva era l'ululato del lupo. Non stanno bene neanche loro. Non stanno bene. Anche quella è una serie che ci ha accompagnato a tutti noi per, sì, per sei anni. E sì, beh, per forza. Poi si crea un'alchimia tra i personaggi della serie, ti affezioni per forza. Tu vampiri, queste cose qui, no. Questi giovani vampiri. Più lupi mannari. Più lupi mannari. Tu sei più il meccanico. Sì. Che poi insomma la vera storia è fra lupo mannaro, grossi, ma... pelosi, proprio. Esatto, però... E poi altre serie interessanti che ti è capitato di seguire, sì, sai, hai fatto... Ho fatto dei personaggi quando ero più piccolo, dei personaggi di puntata, però non ho mai fatto un personaggio ricorrente in CSI. Adesso sono appunto la doppio Tom Felton in Flash, nella nuova stagione di Flash, che lui fa il cattivo. Il cattivo, perché il buono invece è il figlio di Monica. Buono. Sì, Alessandro. Alessandro. Sì. Sì, che è venuto una volta qui, è vero, ci ha raccontato questa sua avventura. Lui bello spigliato, gagliardo. Sì. Era lo spia della madre, però ha parlato lui. Vabbè, ma queste sono cose che succedono. L'abbiamo trovata, Alessandro. Come quasi, ma ti prego, abbiamo una trasmissione. Ho detto che sei bravo, che sei veloce, che sei straordinario. No, volevo dire, Pino, a proposito della serialità dei film. No, vabbè, no, che sa che cosa dirà. Ma puoi dirlo a Delio che lui la dice? No, io ho un'altra domanda. Ah, okay, no, una cosa carina che è successa con mio figlio che c'ha 7 anni. No, gli ho fatto vedere Hook con Robin Williams e Dustin Hoffman. Il film di Spielberg, classico, sì. Esatto. E lui lo vede e lo apprezza tantissimo. Alla fine, per dire come sono impostati con questa idea della serialità, appena finisce il film, lui emozionato con la lacrimuccia dice: papà, metti il 2. Cioè, perché lui certo. Volevo continuare a stare, certo, nel sogno. Perché ormai è scontato che ci sia. Esatto, ci sia. È vero. Certe volte dovrebbero finire là certe serie. Proprio. Voi che serie? Tu non le guardi, Vito Caporale, serie? No, vabbè, no, lascia stare. Qualcosa sì. Belio, tu che l'ultima che ho visto è Wayward Pines. Che è in originale, però l'hai vista? No. L'ho vista su Sky, si può dire. Ma sì, sì, certo. Bravo, cioè, detto ormai. Sky, Netflix, insomma. Sì, esatto, le prime due stagioni. Tra l'altro è prodotta da Night Shyamalan, il regista di Sesto Senso. Sì, è interessante. Sì, come che io lui devo ancora capire. Cioè, qualcosa funziona, qualcosa sì, no. Sì, perché lui è stato meraviglioso sul Sesto Senso. Sì. Forse qualcosina su The Village. Esatto. Dopo... Non mi è più stupito. È molto particolare. Molto particolare. Sì, diciamo particolare. Quando di brutto quando ragazzino. Non sai che dire, esatto, dici esatto. Particolare. Dice, e non dopo sbagli. Uno spettacolo e vai fai i complimenti e non sai che dire. Fai, ammazza, ma faticate tanto a sto spettacolo. Cioè, begli occhi sto ragazzino. Cioè, capito? È quello, Ma no, io sono più tradizionalista, vedo ancora Stasky Hutch, che è un vecchio telefilm. Zitto, io ancora lo fanno alle 3 di notte sulla 7. Allo sparire. Okay. Tu pensi che io in Harry Potter... Nelle cose segrete speciali del primo Harry Potter ancora non mi sono trovato, ma sono il padre di Harry Potter che muore. James. Sì, non sta nel film, sta nei come si chiamano, i contenuti speciali nascosti. Cioè deve essere sto padre che mi muore perché ho fatto l'anello e basta. Vabbè, però ci abbiamo il protagonista qui. Tieni. C'erano alcune frasi, non so se te le ricordi o scaricate così. Perché così teso, Potter? Mio padre e io abbiamo scommesso, sai? Per me non duri più di 10 minuti in questo torneo. Lui non è d'accordo. Secondo lui neanche 5. Cattivo! Cattivo! Prima dolce, delicato. Adesso sei proprio drago, ignorante, cafone. Le altre, vai, prova a leggerle. Scoprirai che alcune famiglie di maghi sono meglio di altre, Potter. Non vorrai fare amicizia con le persone sbagliate. Io posso aiutarti. Certo, qual è la frase famosa che dice Harry Potter lui? Paura, Potter. Mettiamolo come... C'è stato un momento che ci chiedevano le suonerie. Ma sai che in tanti mi chiedono di dire paura Potter. Allora adesso silenzio con la musichetta. Vai la musichetta. Silenzio. Ricominciamo con la musica che dopo è libera per la... Insomma, per la... Un po' mi viene. Vai. Paura Potter. Dai, così si può rispondere al telefono. Ma... Allora, a tra pochissimo, Voice Anatomy. Un saluto e un augurio di buone feste a tutti gli ascoltatori di questa straordinaria trasmissione che si chiama Voice Anatomy. Sono Cristian Ianzante, ciao. Ciao a tutti, sono Giorgia Lepore e vorrei augurare un fantastico, meraviglioso, luminoso, caldo Natale a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy, puntata veramente ricca. I Baronna sono ancora qui, vero? Ci siete? Auguri a tutti. Auguri a tutti. Basta, no, vabbè, adesso è veramente Merry Christmas. È paesante, cioè rompe le scatole. Flavio Aquilone continua a essere presente. Ciao, ciao a tutti. Benissimo, e ci ha raggiunto l'altro amico attore e doppiatore che è Roberto Cammino. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, ciao Roberto. Ciao, anche ciao, lui a Natale incastrato. Il papà non sarebbe mai venuto, è già venuto l'altro anno, all'altra stagione. Adesso giustamente, cioè Roberto è un bravissimo attore e doppiatore, ma un straordinario direttore di doppiaggio, insomma. Sono due anni che mi vince di seguito House of Cards, la al direzione al grangla del doppiaggio. Sì, ma soprattutto bellissimo, sì. Un bravissimo direttore, buono, carino, disponibile, perché è attore, capito? Sì. Come un giocatore che diventa allenatore, capisce quali sono i problemi. Esatto. So la psicologia di chi sta davanti al regio. Esatto. E cerco di metterli sempre nelle migliori condizioni possibili. E infatti, a me mi ha sostituito dopo due anni. Vabbè, sì. Non è quello. No. Ho fatto il russo, il presidente russo. Grandissimo presidente russo. Esatto. Con sì, ma lo faceva per mettere in buone condizioni gli altri. Ma perché? Caporale, nessuno ti ha chiesto di intervenire, sono il conduttore. Ma a Natale, si può. Sono Pino Insegno, la gente sa chi sono. Sono gli zuccheri del panettone che salgono e danno euforia. Questo è il riflusso gastro. Esofageo. Non è. E volete fare la sigletta? Intanto al telefono ho due amici, due attori straordinari, amici non sono miei, ma di tutti che ho incastrato telefonicamente, ma con loro ci staremo almeno due o tre ore. Voice Anatomy, però fatta bene stavolta. Ok. Vai. Voice Anatomy, Santa Claus is coming to town. Voice Anatomy, tu scendi dalle stelle ore del cielo. No, vabbè, no. Voice Anatomy, quando nascete un inno. Voice Anatomy, Voice Anatomy, Voice Anatomy. Jingle bells. No, è peggio della prima. Ma questa è quella riciclata veramente. Io mi oppongo sempre, non lo faccio mai. Eleonora, io ti ringrazio. Ma vabbè. Sentiamo chi c'è al telefono. Allora, il primo pronto, vediamo chi risponde dei due. Il primo a rispondere, pronto? Pronto. Eccolo, la voce. Eccoci. Tranquillo. Lui è Fabio Ferrari. Come hai fatto a riconoscermi? Beh, dai. Abbiamo avuto la fortuna di cominciare insieme questo percorso artistico 36 anni fa con l'Allegra Brigata e ma vari spettacoli. Ma non ero nato 36 anni fa. Smettila. C'hai ormai una prostata grossa come un pallone, smettila. Fabio Ferrari, che poi grandissimo successo è arrivato qualche anno dopo grazie allo startup che ha avuto con me, insomma, solamente per quello. Grande protagonista dei ragazzi della terza C, il chicco dei ragazzi della terza C, al quale non perdonerò mai di aver fatto il romanista per tutta la serie. E invece lui... ma l'ho pagata. E l'ho tu pagata invece... cara. L'abbiamo pagata pure nel derby, invece è un amico biancazzurro, ma ovviamente anche lui. Non è un ultranzista, integralista biancazzurro e sportivo. E dall'altra parte del filo, da un'altra parte... Tu dove sei, Fabio, adesso? Io sono al Plan de Corones. Cioè? Cioè a Plan de Corones. Provincia? Sulla montagna di Brunico. Ho capito. Ah, dove è il ritiro a Roma, oltretutto. Cioè, se proprio... No. Cioè, vabbè, allora senti, allora mi nascondi qualcosa. E invece un altro che ha origini francesi, lo capirete dalla voce, lui cresce alla Sorbona di Parigi, si laurea ad Harvard e poi con Harry Potter ha fatto il seguito lì a... Come si chiama la scuola di Harry Potter? Hogwarts. Pronto? Pronto. Eccola. Sì, vabbè, così se uno... Lui è... Capito il derby, scusate. Ma lascia stare il derby, non è una trasmissione regionale, è una trasmissione nazionale. Il derby è finito da tanto tempo. Ascolta e parlate di Lazio. No, adesso ho solo aperto questa telefonata, siamo già in onda da un po', carissimo, e abbiamo parlato di questo proprio per la caratteristica di Fabio Ferrari in quella serie straordinaria che tu hai fatto. Lui è Fabrizio Bracconeri. Il rosso indimenticato, anche se i capelli rossi credo tu non ce l'abbia più un po' adesso. No, io ce l'ho ancora i capelli rossi, ce l'ho ancora. C'è i capelli rossi. Per farvi capire, io, guarda, Mauro Meconi, che tu conosci sicuramente come attore, è anche un bravissimo autore, abbiamo scaricato un paio di momenti della tua vita artistica e su tutti, caro Fabrizio, anche Fabio sarà d'accordo con me, che il momento di Acqua e Sapone con Verdone che ti ha portato... È stato un trampolino enorme per te, no Fabrizio, il film con Carlo? Intanto fammi salutare tutti, buongiorno a tutti, soprattutto a Fabio che sta a Plan de Colossi. Siamo uno dalla parte al nord e uno dalla parte. Siamo vicini. Tu dove sei, Fabrizio? Io sono adesso a Trapani. Perché? Perché c'ho una casa a Trapani, abito a Trapani. Ah, tu abiti a... scusami, cioè, tu sei, ormai vivi a Trapani? Allora, io ho una storia un po' lunga, ho comprato una casa... una quindicina d'anni fa qua, penso l'ha fatta comprare un mio amico, io neanche la volevo comprare. Ma guarda il fatto, guarda, incredibile, sta qua questo mio amico che mi ha fatto comprare casa, ma pensa che roba. E questa casa poi purtroppo per vicissitudini personali, per problemi con mio figlio, così non ho trovato più una scuola che potesse assistere. Sì, devo dire, figlio. Ecco, giustamente lo dice, lui ha dei bambini, quattro figli hai, vero? Oramai sono pure nonno, quattro figli, tutti e quattro abbastanza grandi, il più piccolo c'ha 15 anni, perciò è proprio il più piccolo. E uno dei bambini ha un problema importante, insomma, questo fa molto, tanto, importante, molto importante. Molto difficile, sì. E un giorno la scuola statale mi ha chiamato, mi ha detto purtroppo un bambino di 13 anni, 12 anni e mezzo, col pannolone, che non parla, non mangia da solo, cammina a malapena e purtroppo... le istituzioni non possono assisterlo, certo. O trovi una soluzione o se no lo tieni a casa. Allora tenere un bambino a casa è difficile, e guarda la coincidenza, ho trovato un istituto che è l'unico istituto in Italia, te lo garantisco, lo senza ombra di smentita, possono chiedere da tutte le parti, io non ho trovato nessun istituto che poteva permetterci di tenere un bambino dalla mattina alle 8 fino al pomeriggio alle 4 e mezza, scuola, e mangiare e poi le attività, insomma, seguirlo, farlo crescere terapie, in qualche modo, certo, la terapia, un istituto medico pedagogico con all'interno una scuola statale, tutto sovvenzionato dalla regione, ma la condizione sine qua non per partecipare, per essere assistito, per essere inserito in questo istituto è avere la residenza in Sicilia. Fortunatamente, tra virgolette, io avevo una casa. Vedi che tutto torna. Subito a giugno ho preso io prima la residenza con mio figlio, l'abbiamo inserito, poi a settembre volevamo giustamente tornare a Roma, dove ho una casa, dove ho altri figli, dove... E mia moglie ha detto, guarda, fa una cosa, facci tu a Roma, io rimango qua con Emanuele, perché qui una situazione del genere in tutta Italia io non la trovo, cioè riuscire ad avere un'assistenza così importante, veramente non la trovi neanche a pagamento, cioè uno se vuol pagare una cosa del genere per 7 euro al giorno. No, noi già paghiamo in tutto quello che facciamo, noi paghiamo, no, paghiamo, no, io non so quanti soldi abbiamo dato all'INPS e quanti soldi abbiamo dato all'EMPALS, dovremmo avere il dottor Kildare dentro casa come ci svegliamo la mattina noi. No, io per anni ho come pagato altri. L'assistenza personale privata per questo ragazzino, e pagavo dalle 2.500 alle 3.000 euro al mese per assisterlo, per cercare di togliergli il pannolone che non siamo riusciti a toglierlo, perciò una spesa continua. Pensa alle persone che magari hanno lo stesso problema, Fabrizio, e non riescono ad affrontarlo, per cui non è giusto. Ma io sto facendo delle battaglie, delle lotte per queste famiglie, perché io lo dicevo, perdonatemi se vi rubo 5 minuti, ma no, anche Fabio capirà, ma è importante anche questo, è Voice Anatomy, dimmi. Io lo dicevo 5 o 6 anni fa a Forum, quando vedevo che andavo a fare le terapie, me ne venivano a fare a casa in maniera privata, le terapie dopo la scuola, e veniva il terapista a casa e faceva 2 ore e pagava 35 euro l'ora per assistere, per fare terapia del linguaggio ABBA, questi linguaggi per bambini autistici gravi, importanti. e mi accorgevo che parlando con le famiglie che c'erano, che eravamo 250, e gente che addirittura magari il padre stava in banca, faceva il direttore, non potevano assisterli, perché economicamente non puoi sostenere una spesa del genere, non ce la fai. E lo dicevo 6 anni fa, ragazzi, attenzione, che la gente che ha un portatore di handicap a casa o mangia o cura il portatore di handicap, ricordatevi quello che vi sto dicendo. E oggi si parla di questo, che la gente non può curare i portatori di handicap, non può curare i figli con malattie importanti, i figli o i padri o le madri. Certo. E ricordatevi che tutti prima o poi diventeremo portatori di handicap, perché io mi auguro di campare fino a 100 anni come tutti, ma a una certa età noi abbiamo bisogno tutti dell'assistenza. E oggi l'assistenza, quando tu vai in un centro di assistenza per giovani o per bambini o per grandi, hai visto quello che succede? Li picchiano, li maltrattano, e sai perché? Perché la gente che è presa in queste associazioni o cooperative è sottopagata. E io essere sottopagato e pulire il sedere alle persone anziane, alle persone non mi va, non gli va la gente per 8 euro l'ora. E allora succede questo, perché questo è il sistema italiano. Purtroppo te lo dico con... uno se ne accorge quando ci capita dentro, purtroppo, e tu ci sei dentro. Ma io ti ringrazio di questo sfogo, è Natale ed è giusto ricordare anche... E questo anche è uno dei motivi. Dice, siamo più buoni. Questa, perdonami. No, lo so, ti conosco da tanto. Lo so. Non a Natale, fate i cattivi. Esatto. Ma tutto l'anno fate i buoni. Esatto. Tutto l'anno bisogna, non solo a Natale. Grande provocazione. Fabrizio, anche Fabio, rimanete con noi. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità e torniamo immediatamente. 30 secondi, un minuto e siamo di nuovo insieme. A tra poco, Voice Anatomy. Sono Mario Cordova, sono la voce di Ricerghiere e volevo augurare a tutti gli amici di Voice Anatomy un sincero e affettuoso Buon Natale. Ti fidi di me? Questo sarà un Natale incredibile. Un augurio speciale a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy da Francesco Pezzulli. Ciao Pino. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, puntata natalizia qui da Radio 24 con i miei amici Barahonna, sempre presenti musicalmente e non solo vocalmente, parlano anche, soprattutto troppo, Vito Caporale. Flavio Aquilone continua a farci compagnia, ci ha raggiunto da poco Roberto Cammino, altro straordinario direttore di doppiaggio, doppiatore e attore. Dall'altra parte del filo Fabrizio Bracconeri, con il quale abbiamo cominciato a fare questo percorso anche inaspettato, bello, interessante, duro, e Fabrizio sta dando voce a chi non ha voce, la trasmissione che parla di voce, mi sembra giusto sottolinearlo e urlarlo il più possibile, soprattutto in queste giornate pseudo di bontà. E invece credo sia fuggito da qualcuno che lo sta rincorrendo, Fabio Ferrari, che invece sta in vacanza. Sei dove sei? Sono al confine con l'Austria, siamo fuggiti con mia moglie in esilio, ecco. Perché volevamo vivere la vacanza di Natale, diciamo, dopo l'esito referendario e dopo il derby. Ah, certo. In un luogo tranquillo che non ci parlasse di questi dolori che abbiamo, dolori che ho vissuto solo io, in parte perché mia moglie è della Roma, quindi sì, diciamo, tu pure sei una famiglia multietnica, pure io l'ho presa solo io la doppia sconfitta. Lei in parte contenta. Certo, anche io vivo questo matrimonio misto, per cui devo accettare, lo dico sempre, si vive in una società multilaziale, per cui dovranno accettarci in qualche modo. Per cui tu sei in pausa, sei in vacanza adesso, Fabio? Io sì, sto per debuttare a Roma con uno spettacolo che si chiama Il matrimonio nuoce gravemente alla salute. Dove? Che teatro? San Umberto? Al teatro dei Servi. Ah, dei Servi. E poi dopo andremo a Milano, insomma faremo un po' in giro, ma l'abbiamo, è una ripresa di uno spettacolo già fatto l'anno scorso con grande successo, molto divertente. Verrai qui fisicamente allora, fisicamente in trasmissione, prima della pomeridiana. Fabrizio invece, Fabrizio Bracconeri, altro tuo amico, collega di un'avventura straordinaria che è stata quella dei ragazzi a Terza C, che ha avuto, è stata la prima fiction sceneggiato di gran successo. Allora, Roberto Cammino se la ricorda sicuramente perché sì, ha l'età giusta. Sì, io sì, assolutamente. Aquilone forse non era nato. Tutti sognavamo di stare in una classe come quella. Esatto. Con Bruno Sacchi e Chicco. Era dall'87 all'89, tu Flavio Aquilone non c'eri. Io sono del 90, quindi no. Cioè, vi rendete conto, Flavio Aquilone è del 90. Fabrizio, È del 90 questo. E ha doppiato, più di 500 film ed è del 90. Capito? Non hai mai doppiato Fabrizio Bracconeri. No. Invece Fabio, guarda, mandiamo un momento di Fabrizio nella sua evoluzione massima, dove si ride veramente, con Carlo Verdone. E questo film A quel sapone, un altro dei capisaldi della storia di Carlo Verdone come attore e come regista. Sentiamo il momento, non lo so come definirlo, ma ascoltiamolo. Sì? Disturbo? Oh, uè. Ma che te stai a fare? Che mi sta a fare? Niente. Qualche cosa stai a fare? No, vede. Ma che stai a fare? Ma da che? Ecco, fammi vedere. Ma che? Non vedi che pezzo di... Pezzo di che? Una bambina, oh? Ah, tu questa maglia mi bambina? Sì, e che? Fa che te la pia, questa te lo faccio vedere io che gli faccio. Vabbè, che vuoi? Senti, sto venuto a chiedere due cose. Prima si mi presti 10. No, famo 15, che me. Ti pareva? Ho un ston bianco e devo accompagnare uno a casa stasera. C'hai 75, mi hai debito con me, quando me dai? E tu segna, che poi io te le pago. Sì, non te, te le do, te le donno. Poi? La seconda è che con questa che ho dell'anno, oggi ho superato me stesso. E chi è? Chi è? Questa è un'altra locata, una filippina, fa cameriera qui da quei signori. Senti come ho preso, eh. Allora, Marzia, te lo faccio vedere che è meglio. Che Marzia, devi fare? Mettete qua, non ti preoccupa. Beh? Allora, ho preso un disco, un lento, ho messo, ho fatto musica. Tutto a posto. Ho fatto balla. Come dico balla, lei subito. No, sai, non mi va di ballare. Balla! Poi ci siamo messi a ballare. Sono partito subito con l'incontro avvicinato del quarto tipo. E qual è? Qual è? È quello che fa tutto così, un movimento del bacino. Ma guarda tu, mamma, che sta la vede! Vergognate, vezzozzi! Sorella! Allora, come te lo ricordi quel momento, Fabrizio? Lo sentivi che da lì sarebbe partita la grandissima carriera? Immaginavo, anche perché devo dire che era l'83, l'83. Lo so, ero lontano 83, ero appena 18enne, forse avevo fatto 18 anni qualche giorno prima di quella scena, pensa. E mi ricordo che io la sento l'emozione che ho nel fare questa cosa, la sento ancora nella voce. Era la prima scena importante che facevo di questo film, con un mostro sacro che era Carlo Verdone. Beh, che era uscito alla grandissima, esplodendo in una maniera mostruosa. E devo dire, l'abilità di Carlo Verdone è riuscito a farmi fare una cosa che veramente per me era difficile, era importante, e sento ancora l'emozione. Per esempio, la battuta non era prestami 10, anzi famo 15, era prestami 10.000 lire, no, famo 15.000 lire che è meglio. 1.000 lire non si sente, perché era l'emozione di finire la scena, la voglia di finirla per la paura, la vergogna. Ma poi vedi l'intelligenza di un comico, no? Carlo è un comico e fa fare il comico a un altro prendendosi la scena. Questa è grandissima umiltà e intelligenza. Guarda, dai. Posso dire una cosa? Sì? Io ho visto due registi lavorare in questa grande maniera, e non lo dico per plagieria. Uno è Carlo Verdone, che veramente come regista secondo me è un grandissimo, e un altro è Fabio Ferrari. Io sai che sono rimasto sconvolto. Fabio Ferrari è l'amico che ci abbiamo in diretta in questo momento. Ma che sono rimasto... Che è successo con Fabio Ferrari, scusa? No, Fabio Ferrari è un grandissimo, oltre che un grandissimo attore, che la cosa non mi stupisce perché ci ho lavorato per anni insieme, ma la cosa che mi ha sconvolto è che è un grandissimo regista. Sono veramente rimasto sbalordito dalla bravura di Fabio Ferrari come regista, perché stiamo facendo una cosa insieme che poi... Grazie per avermi chiamato, visto che siamo amici da 36 anni, va bene. No. Io faccio un passo indietro come conduttore sempre, ma qui mi arrabbio, è Natale, ma sono più buono. Che state facendo insieme? Stiamo facendo... facciamo parlare il regista su questo. È vero, momento. Fabio Ferrari, perdonami, visto che io a te ho dato la possibilità di debuttare con la... Zitto! Ti ho dato la possibilità di debuttare con l'Allegra Brigata nell'81, no? L'ho pagata cara, Pino. Ma non l'hai pagata cara, è stato lo start-up e lo sliding doors, come diciamo qua, della tua carriera. Fai un film... Io mi ricordo una cosa straordinaria, devo dire, che io le risate più grosse della mia vita le ho fatte con Pino Insegno nelle tournée estive dell'Allegra Brigata. Perché la cosa stupenda di Pino era questa, che chiunque osasse lavorare fuori dall'Allegra Brigata era una cosa, praticamente era un affronto personale. La parola d'ordine era: Pino, ma sta compagnia è in porto de mare. Perché Pino non concepiva che uno potesse anche poi lavorare fuori altrove, quindi... no, si doveva stare insieme e morire insieme. Si doveva stare insieme e Però io credo che veramente, cioè, le risate che ci siamo fatti, tante. Io non l'ho più fatte così. Ma da sentirsi male. Sì, ma sì, le tournée nostre. Le tournée estive nostre erano. Ma anche quelle invernali, Fabio mio, perché calcola che. Una volta ha fatto l'amministratore di turno, perché facciamo a turno, chi faceva l'operaio di turno, cioè facciamo, costruivamo, eravamo noi, dormivamo sul palcoscenico quando non c'era una lira e tutto quanto, e lui un giorno, c'erano rimaste 500.000 lire, che famo? Dividemosele. E se siamo divisi, ma si arrabbiò da morire, Massimo 5, tutta la struttura dice, ma come vi dividete i soldi della compagnia? Ragazzi, lui era amministratore. Io pensavo, siccome non mi ricordo quanto era avanzato, ma era avanzato più o meno, venivano più o meno 500.000 lire per uno. Io, senti, io pensavo di distribuire questi soldi. Sì, così. Massimo, ma che sei matto? Ci servono per coprire in banca un macello? Beh, io veramente l'ho già dati. Un disastro. Questa è stata la sua esperienza come amministratore. La mia unica, unica. Come amministratore. Amministratore è finita lì. Unico. Unica e unico. È vero. Per cui che state preparando insieme, Fabio? Bella questa Stiamo cosa. Stiamo preparando insieme una commedia di Federico Moccia che si chiama Compagni di Banco. Ah, carina. E per cui, più di noi, appunto. Ma cinema o teatro? No, in teatro. Ah, in teatro. Un vago progetto che non è neanche ancora un progetto, è solo così un due chiacchiere di una cosa cinematografica, ma insomma, per adesso è solo un pur parler. Ma a parte che può essere l'operazione, può essere bionivoca, nel senso, può essere un'operazione teatrale, sì, cinematografica. Esatto. Con i flashback, mi dirai, dovremmo beccare due come voi. È una commedia di Federico Moccia che abbiamo, sulla quale abbiamo un po' lavorato per aggiustare delle cose che erano più giuste per noi, e niente, dovremmo debuttare verso la fine di febbraio. Ancora a Roma? In fieri, guarda, no, non si sa ancora dove e come. Quindi siamo ancora in travaglio. E beh, vabbè, bella questa cosa, però. Mi porti via Eroscio, me lo fai muovere un po', dai. Eroscio in teatro è forte. L'unica volta che dimagrito è che si è operato, perché so col cavolo dimagriva, insomma. È stato uno dei primi a levarsi la panciotta. Forte. Senti, rimanete con noi, adesso andiamo in pubblicità fra 20 secondi. Un altro blocco con noi, 10 minuti, ce la fate, Fabio, Fabrizio? Sì, va bene, perfetto. Pochi minuti. Va bene. Allora, a tra pochissimo, ancora con Fabrizio Braconeri e Fabio Ferrari, ovviamente Baron al mio fianco, e Flavio Aquilone che ringrazio, e Roberto Cammino che ringrazio ancora di più perché è entrato dopo. Va bene, a tra pochissimo. Ciao, sono Francesco Prando e volevo fare a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy tantissimi auguri di Buon Natale e di buone feste. Ciao, sono Rossella Cerbo e auguro a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy un Buon Natale e un felice anno nuovo. Ciao, sono Massimo Rossi e auguro a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy un felice Natale. Ciao a tutti! Voice Anatomy. Come promesso, signori miei, buon Natale, lo ripeto, un buon Natale fatto da un pino, insomma, funziona, anche dai Barona, devo dire in voce. Grazie ancora a Flavio Aquilone di essere presente, Roberto Cammino, con il quale parleremo tra poco del suo lavoro, ma intanto abbiamo Fabio Ferrari e Fabrizio Braconeri, indimenticati protagonisti, insieme dei ragazzi della Terza C, ma poi tanti altri, perché anche Ragazzi in America l'avete fatto insieme? No, non l'ha fatto. No, tu non l'hai fatto, no. College insieme avete fatto ancora. College è un'altra serie del 90, nasceva Flavio Aquilone, esatto, nel 90. Per cui, mai cliccale, vedi queste cose. Io ho fatto le prime due puntate di Ragazzi della Terza C, poi ho menato regista e sono andato io. Vabbè, ma questa è un'altra storia, no, è andata così. Sentiamoci un momento dei Ragazzi della Terza C con Fabio Ferrari, eccola. Momento clou del nostro show. Ladies and gentlemen, sta per entrare in scena l'ospite d'onore. Ecco a voi Lazzaretti! Non vi preoccupate, torno subito. Lazzaretti, anche quest'estate ci troviamo qui puntuali come il Festival Bar in Mundialito. Ci dica, che intenzioni ha questa volta? Sarò breve. Sono tanti anni che faccio questo esame, eppure per me è sempre come la prima volta. Non so un tubo. Arrivederci. Di nuovo, è stato un piacere. Lazzaretti! Ma dove va? Si sente? Mi seguo. Lazzaretti, il suo professore mi ha parlato di lei come di un alunno pronto, intelligente, un buon elemento. No, lei mi confonde. Che fai, modesto ora? No, dicevo, lei mi confonde con un altro. Io ho certi giudizi che sembra il mostro di Firenze. Te la ricordi ancora? Quanti anni sono passati, mamma mia? Sono passati tre anni, almeno due o tre. Sì, sì, non so in quale tipo di moneta. Ti racconto un aneddoto, però. Vai. Che alla fine di questa scena, tu ti ricordi che io sono un po' goffo, diciamo, no? Sì, tendo un minimo a fare dei danni. Sì, sì. Alla fine di questa scena, io uscivo dagli esami di maturità inaspettatamente promosso e mi veniva incontro Antonello Fassari, che faceva Puccio e che aveva degli occhiali attaccati al collo. Io nell'abbraccio li ho frantumati. Sì, sei goffo, è vero, devo dire. È un classico mio. Sì, anche in scena, Fabio, devo dire. Sì, sì. Io colgo l'occasione anche per salutare il tuo grande papà Paolo Ferrari, insomma. Quanti anni ha papà adesso, scusami? Papà ce n'ha 87. 87 anni, ne fa, no, ne fa 88, anzi tra breve, a febbraio. Mamma mia, che voce, ecco, a proposito di voce, papà devo chiamarlo perché insomma, uno che c'ha la voce vera, vera. Sì, c'ha una vocina, ha fatto qualcosa di carino. Sì, qualcosa ha fatto di carino, sì, tipo Humphrey Bogart, sta robetta così. Beh, ma per me la cosa più bella che lui ha fatto in assoluto è Accattone. Ah, è sì, vero, perché questi film... Pensa che tanta gente del neuro... No, tanta, esatto, gente, perché il neorealismo italiano è doppiato. È quella di papà. È vero, è un doppiaggio vero, talmente perfetto, che quasi come quelli di, non so, di Amendola e Thomas Milian, che sembrano, esatto, le voci, sembra la voce che volto, sembra una voce che è proprio impossibile che venga da un altro, ecco, qui non è finita, mannaggia, che è successo? C'è la campana del plan de corone. Vabbè, Natale, ci sta. Dai, vabbè, è finita, no, sta, che è successo? Perché sennò non ti sento niente. No, ti sentiamo bene. Poi ci sta, a Natale le campane ci stanno. Brutto se magari era un altro giorno, è una 6 aprile. È famosa questa. Beh. È una campana costruita che suona ogni volta che uno parla. Viene abolita la pena di morte. Ma dai. Sì, la campana della Concordia. Ma quante cose sai, ma è bellissima. Ma tu lo sai che, cioè, adesso sta suonando perché nella mia goffaggine. Tu studi, ma no, te l'ha detto la guida, sei stato con tua moglie. Beh, ma qui ci sono stato tante volte, un posto del corso. L'avrei capito qualcosa di sto posto. Alla però fine, dai, come si dice a Roma. Oh, mamma mia, per cui suona ogni volta che finisce. Adesso ha suonato, sì, un paese, sì, e ha tolto la pesadina della pena di morte. Un paese ha tolto la pena di morte. Ecco, si è riaperta una porta, la potete sentire in tutto il suo splendore. Quelle che aiuta. Ma questo è brutto se ci dormi vicino, in quei posti, paesini, dove è bello il paese di campagna, dove ogni quarto d'ora, sì, sì, suona la campana. Gammino, ti è capitato? Porca miseria. È una cosa brutta, eh? Un fine settimana a Gubbio, un incubo. Ogni quarto, sì, d'ora partiva anche di notte, è stata un'esperienza, sì, drammatica. Sì, e non c'è niente da fare. Io ho provato anch'io in un piccolo centro dell'Italia del Sud, vi prego. Cioè, almeno, sì, comincia dalle 7:30. Sì, sì. No, Dio non ha orari. No. Ho capito, ma io sì. Ma non voglio assomigliare a qualcuno. Ma allora, Fabrizio, senti. Sì. Allora, noi prima abbiamo parlato, hai parlato di un problema molto importante. Questo di dare voce a chi non ha voce è una cosa importante. E per cui vorrei dargli il giusto peso, la giusta presenza. Per cui ne parleremo ancora sicuramente qui, magari di presenza, quando verrete a teatro. Ci prendiamo un po' di tempo e ci racconti quello che sta succedendo dal punto di vista dell'assistenza medica, eccetera, eccetera. Nel frattempo, però, voglio risentirmi assolutamente un altro momento di Acqua e Sapone, perché io anche l'altra sera che l'hanno rifatto su Sky, dice, va bene, guarda un pezzo e poi non gliela fai e guardi tutto, no? E risentiamo un altro momento tuo, tipicamente francese, del film di Carlo Verdone. Voilà. E uno, e due, e tre. Te sei un gran fio della paracula, sei. Lo sai chi è questa? Chi è? Questa è una importante. E beh? Sta ancora qui? No. Sì, sta qui. No, dov'hai? Non ci sta, dov'hai? Dov'hai? Come ha fatto? Eh? Come ci sei riuscito? Dimmelo. Come ho fatto? Non mi piacciono questi discorsi, eh? No. No, mo devi dire. No, pare brutto, su, dai. No, quante volte l'hai centrata? Quante volte l'hai colpita? No, non mi piacciono questi discorsi, dai, piantala. Ma com'è? Com'è? Dimmelo! Com'è? Ma stasera quante volte l'ha colpita? Dimmelo! Stasera? Dimmelo! Tre volte. Ammazza, oh, tre volte. E a meglio, qual è a meglio? Dimmi. A meglio... Dai. Seconda. A seconda. Tremenda proprio. Mi dichi davvero? Terribile. Te lo fa proprio i complimenti, Lola. No, figurati, ma che una pregnaccia è stata. Guarda chi ha acchiappato questo. Hai mortacci visto? Tua, mortacci. Grazie. Bravo. Grazie sui morti, non è male. Oddio, che bello. Un altro ricordo così ce l'hai avuto? Ma è così intenso. Hai fatto altre cose? Hai fatto Mi faccia causa con Steno? Marci un po' di Carlo Vanzina, Animali Metropolitani. Hai lavorato con Steno? Paio di volte. Ho fatto due film con Steno. Sì, sì, beh, insomma, è il papà dei Vanzina, ricordiamo, insomma, il papà dei Vanzina. Hai lavorato poi con i fratelli, Buona Giornata, hai fatto tante, tante cose. Anche la televisione, il teatro. Ma insomma, teatro, televisione. Non ti sei fermato. No, adesso mi volevo fermare un po' per seguire questa situazione, ti dico che oramai è diventato un po' insostenibile, anche perché mio figlio diventa grande, fa gli spagni, diventa un problema, perché poi oltretutto è anche troppo, perciò ha paura dell'acqua, perciò per fargli, ti dico, tragedie, è veramente un problema, e Fabio, per cui devi stare lì vicino. Facevamo le prove, io andavo a Roma a fare le prove tutta la settimana, il sabato però era obbligatorio che io dovessi stare a casa, perché nel caso in cui non ci fossi era un problema fare il bagno a mio figlio, che purtroppo ha il pannolone, che da sola mia moglie il giorno glielo possono fare a scuola, sabato domenica sta a casa completamente tutto il giorno, lavarlo diventa veramente un problema, assolutamente, è più grosso, è più alto di me, porca miseria. Ma non sei altissimo, Roscio, no, dai, non sei neanche un nano, no, come Ferrari, voglio dire, però... No, Ferrari è piccolino, sì, Ferrari devo dire non è un portatore sano di femore, questo sì, però no, è intenso, insomma, è una persona... Allora, dai. Pure questi impegni quotidiani con questo ragazzo, che è la mia vita, oltretutto, è la cosa più senza nulla togliere gli altri tre, insomma, quattro figli... Ma figurati, per me i figli sono tutti e quattro uguali, sono proprio... Io lo dico sempre, per me la cosa più importante è la famiglia, non c'è altra cosa... Sono gli amici veri e la famiglia, quello che resterà per sempre, non è tanto il lavoro, sì, resta, sono ricordi, eccetera, ma sa che poi si rinnovano, sappiamo perfettamente come vanno le cose. Invece sono molto contento di questa avventura che farete insieme come compagni di banco, e non vedo l'ora di abbracciarvi, sinceramente. La stessa cosa credo voglia fare il pubblico, in maniera meno diretta di quella che farò io fisicamente. Però insomma sono molto contento davvero di avervi sentito in questa giornata importante. Vi voglio bene come credo la maggior parte degli italiani. Grazie Fabio Ferrari, torna alle tue campane, poi ci racconterai le altre cosa importa, cosa produce questo paese. E perché insomma auguri, buon Natale a tutti. Auguri Fabio. Fabrizio, auguri. Un bacio grandissimo, ma soprattutto al tuo grande bambino. Grazie soprattutto a te e alle persone che come te stanno combattendo una guerra in silenzio, urlando sottovoce, e insieme faremo qualcosa, vedrai. Ti abbraccio Fabrizio, un bacio enorme, grazie, grazie davvero. Grazie a Fabrizio, e noi ci fermiamo ancora un secondo e poi torniamo con i nostri amici qui e ascoltiamo stavolta la voce di Roberto Cammino. A tra pochissimo. Voice Anatomy. Come promesso, signori miei, buon Natale, siamo qui, Voice Anatomy, Radio 24, i Baron al mio fianco, Flavio Quilone rimane con una sorta di Virgilio che accompagna in questo viaggio. Io sono sempre qui, sempre presente. Esatto, e sta accompagnando Roberto Cammino che ci ha raggiunto da un po', insieme abbiamo goduto e assistito alla testimonianza di Fabio Ferrari e Fabrizio Bracconeri, due straordinari interpreti di un tu non c'eri, non eri nato quando hanno avuto il grandissimo successo, però Fabrizio, hai capito? Sì, no, assolutamente. Mi ricordo una nostra citazione tra amici, era quando qualcuno si vestiva male, era una sua battuta di acqua e sapone, rosso su rosso fa chic. Rosso su rosso fa chic. Ma sono cose che rimangono nella storia. Io devo dire, vorrei tantissimo che si tramandasse tutto di tutti. Per esempio, il papà di Roberto, Michele, non è soltanto un grande doppiatore, un bravissimo attore che tuttora è in scena. Ma è uno che in televisione faceva 25 milioni di ascolto, insomma. Sì, a quell'epoca, ai primi anni 80, fino agli anni 70, Giochi senza frontiere. Giochi senza frontiere. Anche quando ho collaborato con Lorenzo Tortora a Portobello Shopping, si parla dei 20, 22, 23 milioni di spettatori. Capito, cioè non potevi camminare. Trasmissione, sì. Io vorrei che queste cose si tramandassero, nel senso che abbiamo avuto e abbiamo dei grandissimi professionisti. Non è giusto che un ragazzo tu gli dica parlami di Nino Manfredi e dice con chi gioca. Cioè, sì. Capito, non mi sta bene, non mi piace. Deve essere nostra cura sì. Portare avanti la memoria di certe cose. Esatto, come facciamo magari nel doppiaggio, che tu ricordi perfettamente Cigoli, sì. Nomini Pino Locchi e c'è Pino Rinaldi. Bisogna sì. Fare la tempo stessa cosa. Tempo fa sentivo un'intervista in televisione, dicevano un sondaggio fuori da una scuola di Rimini, 7 su 10 non sapevano chi fosse Federico Fellini, sì, sì, che ma... poi insomma è nato lì e insomma è una nostra eccellenza cinematografica, un maestro mondiale. Mondiale. Sì, sì, la stessa cosa ha fatto su Berlinguer, ha fatto Veltroni col documentario, sì. Gente dice, gioca con questo, no, sì. Ma guarda, forse è un attore che, capito, c'è questa realtà, e non è bello, sta proprio alle istituzioni, a noi si tramandarlo nel nostro piccolo, certo. Quello sicuramente sì, però insomma, siamo quello che siamo stati, insomma, siamo esatto. Figli di quello, cioè, anche noi, tu sei figlio anche tu soprattutto di un grandissimo, per cui non facile superare papà, no, È più facile chiamarsi Mario Verdicchi, sì. Che ne so, no Flavio, tu non hai avuto doppia, cioè mamma sì è un'adattatrice, un'assistente, non una doppiatrice, no, certo. Capito? Per cui... però diciamo che il nostro percorso poi alla fine si è separato con quasi da subito. Sì, sì, tu sì, a 5 sì. Anni sei andato via da casa. Sì, no? Esatto. Dopo aver doppiato il coniglietto ha detto beh, penso sì. Io ormai a... Tu invece come hai cominciato, Roberta? Che tu respiravi quest'aria a casa? Sì, ovviamente. Io ho sempre respirato quest'aria a casa da quando ero bambino. Ho fatto pochissime cose, ma insomma papà mi ha abbastanza preservato nella mia infanzia. E poi ho cominciato, finite le scuole, con una scuola di recitazione. All'epoca mi ricordo, insomma, è stata una bella esperienza e piano piano ho iniziato. Cioè, volevo fare l'attore, il doppiatore era una parte di quello che volevo fare, perché come noi quando abbiamo cominciato Pino, insomma, più o meno siamo lì. Sì, più o meno sì, siamo lì, sì, stavo ricordando 6-7 anni fa, cioè, prima quando venivo a divertirmi appunto con i vostri spettacoli della Allegra Brigata e si voleva fare gli attori, quindi fare il doppiaggio, teatro, cinema e... Infatti è così, se devo fare il doppiatore è il climax di questo mestiere. Non puoi fare il doppiatore. Cambia il mezzo, non c'è una cinepresa, non c'è il pubblico in sala. Esatto, però bisogna essere attore, lo dico a tutti quelli che iniziano e che si avvicinano alle sale, no? Sempre più frequentemente. Esatto. Bisogna essere fondamentalmente attori, la voce è una cosa assolutamente secondaria, sì, sennò sì, molti nostri bravissimi colleghi non avrebbero lavorato, nessuno può avere sempre la voce di Cigoli. Sì, esatto, no? di Pino Locchi. È uno strumento. Oreste Lionello non aveva una voce così come si diceva un tempo da primo attore, ma io mi inchino davanti al talento del maestro. Mamma mia, che bello. Vogliamo sentirci un paio di auguri, perché tu stai ascoltando la trasmissione, sì, vogliamo gli auguri ai nostri colleghi. Sì. Sentiamo un po' chi ce li fa. Ciao, sono Giuppizzo, tanti auguri di Buon Natale a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy. Ciao, Buon Natale. Non l'ha fatta sensuale come pensavo, no. Come fa lei nuovamente, ciao, sì. Eccetera. Vabbè, certo, sapete perfettamente chi è Giuppizzo. C'è un altro? Vediamo, sentiamo. Ciao, sono Francesco Prando e volevo fare a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy tantissimi auguri di Buon Natale e di buone feste. Mi chiamo Bond. James Bond. Io devo rubare prima o poi. Sì. Mi manca questa cosa. Quanto mi manca, sì. Mi chiamo Bond. No, Aquilone. Come esperienza, dici. Sì, beh, certo, non voglio farlo fisicamente, è impossibile. Però... Anche se secondo me è fisico. Fino. Sì, ci sì. Sta, è vero. Dai. Grazie Robertino, sei ospite anche alla prossima puntata. Bellissimo, amici, così no come Vito Caporale che parla a sproposito. Sentiamo un altro di augurio. Un grande, grandissimo augurio di Buon Natale agli ascoltatori di Voice Anatomy. Sono Francesco Pannofino e vi voglio tanto bene. Ciao. Beh, anche lui raccontarlo sì. Mi sembra superfluo. No, assolutamente. Devo dire, a proposito degli inizi, la mia prima scuola, appunto, diciamo di recitazione, io ho avuto l'onore, giovanissimo, di avere come insegnanti Francesco Pannofino e Luca Dal Fabbro. Ah beh, che abbiamo avuto proprio da poco, Luchino. Erano anche giovanissimi e devo dire già all'epoca mostravano tutto il loro talento e devo dire che è stata insomma una bella scuola, una bella esperienza. Che insomma ci siamo ritrovati poi negli anni, a parte nell'amicizia. E tu come direttore poi. E poi come direttore ho avuto la soddisfazione di vessarlo come mi vessava. No, devo dire è stata uno più per la parte tecnica, perché poi Luca insomma figlio di genitori, sì, fondatori dell'Accademia d'Arte Drammatica, e Francesco talento puro assoluto. Sì, un istinto pazzesco artistico. Devo dire ha insegnato molto l'improvvisazione, il calarsi nel personaggio, insomma è stata una bellissima esperienza e diciamo il mio debutto teatrale è stato con loro. Hai capito, papà sarà geloso di questo. Papà sta ancora in scena, cioè, voi dovete vedere Michele Cammino, c'ha i capelli neri, sì, ma non so tinti. No. E non c'ha, no, non c'ha più 70 anni, papà. No, c'ha dei geni, se sa, no, blindati. Lui in titanio. Lui è il vero padre di Michele Cammino, esatto. È Roberto, esatto, Cammino. In realtà 75 anni ce li ho io. Sei più affezionato alle due direzioni ormai o al doppiaggio, cioè a doppiare gli attori, che tu non smetti mai, sei un ottimo caratterista. Sì, abbiamo fatto sì, insieme il dittatore. Il dittatore, sì. Sacha Baron Cohen, io e lui era il mio accompagnatore. Sì. Ah, divertentissimo. Facciamo quella cosa in arabo. Che voce arabo. Sì, era bellissimo, non sì, mi ricordo neanche più come l'ho fatto io. Davvero, però era divertentissimo. Sì, sì, sì, sono sì, divertito sì, proprio sì, tanto. Insomma, qual è la strada che ti piace più? Sì, percorrere parallele sicuramente cammino sì, parallele. Però ti piace di più stare dietro? Devo dire che è un po' come appunto fare un po' l'allenatore, regista, cioè riuscire a dare a tutti la possibilità di esprimersi al massimo, di curare un prodotto a 360 gradi, spesso mettermi dalla parte del pubblico, quindi capire cosa vuole da un film e come trovare la maniera giusta di tradurlo nella nostra lingua e di dare l'emozione alla nostra lingua. Sì, ma poi è un'orchestra, perché tu esatto, fai ecco, House of Cards, ora una serie pazzesca, difficile, devo dire, una serie politica, giallo, psicologia, tutto, cioè veramente tutto, e devi avere il colore sì, dell'intera serie, anche se non ti arrivano tutte insieme. Noi il rischio che ti arriva una puntata a settimana e non sì, sai come si evolve, non sai mai cosa si capito, evolve, insomma il lavoro è questo. Però devo dire lì è veramente una tavolozza di colori incredibili quella serie, perché tutti, anche chi fa una piccolissima cosa sì, è un bravissimo attore e il personaggio è disegnato e scritto perfettamente. E lì il gusto è proprio di far tornare tutto insieme e dare il giusto gusto, la giusta tensione, e trovare le stesse voci. Questa è una vecchia lezione che mi insegnava, che ho rubato da grande Cesare Barbetti. Robert che diceva sempre Redford, che appunto la direzione di doppiaggio doveva essere un'orchestra eterogenea dove ognuno era distinguibile dall'altro, ma poi tutto quanto messo insieme, no? Nella ricetta diceva, aveva un suono giusto, omogeneo, viene la sinfonia. Esattamente. E diciamo, queste sono un pochettino le linee che cerco di seguire. E poi ripeto, cerco sempre di pensare a me come spettatore, cosa vorrei vedere, come vorrei che fossero resi i personaggi. E nella nostra lingua, nella nostra recitazione, mantenere tutto lo spirito dei personaggi. Uno dovrebbe essere film, sempre spettatore, la parola chiave è quella, sì, cioè tu fai teatro bene, verresti a vederti? Esatto. Sì. No, perché io lo dico andrei sempre, a vedere, lo andrei a sentire, io esatto, cerco ancora, insomma, dopo tanti capito, anni perderei di mettermi questo tempo davanti al televisore, esatto, sta tutto lì, se tu sei così esatto, onesto intellettualmente, allora viene fuori sempre un ottimo lavoro, devi mettere dall'altra quella parte. È una regola. Quando fai il matrimonio e dici faccio quattro primi, quattro secondi, tre terzi, no, perché quando fai i matrimoni tu lo odi. Sì. Te vengono le piaghe da decubito, allora quando te sposi te non puoi fare quello. No. Devi fare le portate giuste in modo tale che la gente dica però 10 minuti più avrei mangiato sì, oggi, no? Mi è rimasto quell'angolino. Esatto, e invece non si fa così. Baronna! Hola! Sveglia! Allora, siamo sveglissimi, siamo affascinati da questo mondo del doppiaggio. Stava dormendo. Ma io Pino... Buongiorno! Stava dormendo. Sta digerendo il panettone sì, ancora. Pino, posso fare una domanda? Certo, tutto, Leonora tutto, Delio tutto, Vito... Perché poco, oggi ce l'hai con me? Zitta! Allora, io volevo chiedere, perché prima avete detto questo fatto, lui è un attore, doppiatore, e poi è diventato direttore del doppiaggio, sì, ma perché capita anche che alcuni direttori del doppiaggio non siano stati doppiatori prima? Questa è una mia curiosità. I direttori pure, certo. Come sì, diciamo sì, il regista, sono magari forse non i più grandi attore, non sono stati di... Oppure non, diciamo, non hanno iniziato anche, per esempio, Mario Maldesi. Mario Maldesi ha cominciato come attore, addirittura con Giulietta Masina, mi raccontava delle sue esperienze il dopoguerra nel poi teatro. Poi ha diretto tutti i film di Fellini. Esatto, e poi però ha capito che la sua strada era più quella del regista, diciamo, in qualche modo, e quindi, diciamo, ha curato tutta la sua carriera facendo esclusivamente il direttore di doppiaggio, spesso anche, come diceva prima, nessuno sa che il neorealismo è il grande cinema italiano. È doppiato. Una presa diretta era impossibile all'epoca, con i rumori girando per strada. Enrico Maria Salerno era il Vangelo secondo Matteo, era Gesù, era esattamente Enrico Maria Salerno, insomma. Nessuno sa che poveri Mabelli, le voci sono di Rinaldi, di Barbetti, le voci di Maurizio Arena. Maurizio Arena è pure parente, zio Maurizio. Zio. Sì, erano doppiati tutti, ma anche i grandi una volta, sì. Cioè Gemma, tu già Fabio Testi, ma poi è capitato di doppiare Maurizio Merli. Fabio Testi, accidenti, sì, sì, era Terence Hill e Bud Spencer, Pino Colizzi e Glauco Onorato. Perché spesso si sceglieva una faccia nel cinema italiano e poi ci si associava una voce e si creava il personaggio, assolutamente. E anche Renato, grande Renato Izzo. Renato Izzo, un grande direttore, stato, era doppiatore. Esattamente. Fede Arnaud, assolutamente. Ettore Giannini, grandissimo regista, direttore di doppiaggio per esempio del Padrino, era un regista, ci sono tantissimi casi. Sì, guarda, sì. Petrolio ogni soddisfazione, c'è l'enciclopedia del doppiaggio e c'è il sito di Antonio Genna dove ci sono, voi cliccate quello lì, divertitevi perché c'è lo scibile, ma sono i nostri biografi ai quali diamo gratuitamente le nostre immagini, loro ci curano il curriculum, per cui, cioè lui ne sa più di noi, per cui seguite anche questa realtà, poi li inviteremo anche in trasmissione. Restate con noi, a tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci, signori miei, bentornati, sempre Voice Anatomy, sempre i Baron al mio fianco e due straordinari attori doppiatori come Flavio Aquilone, con il quale abbiamo fatto un bellissimo percorso all'inizio, ma adesso resta qui, io prigioniero. Io sono qui, perché se non ci serve una cosa dolce, romantica, voglio avere Natale, voglio... cioè, che ne so, io devo fare rileggere. Abbiamo fatto un bellissimo film d'amore con Flavio un paio d'anni fa, If I Stay, una storia d'amore strappalata. Ah sì, lui sulla sedia a rotelle? No, scusate, ho sbagliato. Vabbè, c'è modo di no comunque. C'è un modo di no, Pino, no, non è quello, è un altro. Interessante anche Android, quello. Anche un altro bellissimo film abbiamo fatto insieme, Human Droid, con Dev Patel. È stata una storia veramente... Sti nomi che doppio del genere, veramente di una difficoltà. Dev Patel, Randall Radway. Standing un nome normale. Drago, come si chiama Drago? Tom Felton, dai, questo è Tom Felton, ok, ci sta. Però è difficile il nome che fa, che interpreta nel Harry Malfoy, ecco, già Malfoy, Drago Malfoy. Ci sta. No, va bene. Come si chiama quello lì del Danish Girl? Eddie Redmayne. Ti ho detto il segreto, dillo veloce. Io ho imparato dopo 10 anni che doppio Liv Schreiber, come si pronuncia. Quando dice, ma tu chi doppia? Poi io faccio Liv Schreiber. Liv Schreiber. Chi è? Cioè, chi è? Tu a vedere dici, ah, cavolo. Cioè, per questo quando camminano per strada questi, c'è gente non li riconosce. Ma sì, se camminiamo io e Liv Schreiber al quarticciolo, mo. Poi se la gente va, vedi Liv Schreiber, no, qua. Vedi, mi non segno. Esatto. Poi succede questo, che è una cosa brutta. È una cosa brutta, vabbè, comunque sia. Barona, mi regali un attimo di atmosfera natalizia? Ah, sì. Allora, un po' di tradizione questa che riguarda un po' la nostra storia. Ma perché comincia con gli spettacoli dal vivo, i cantanti? Non mi ha chiesto nessuno questo. Vabbè. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo. Mi è presa una cosa. L'infanzia, sì, proprio. Visto, siete bravissimi. Ho rivisto a scuola l'asilo, le stelline sulle mani, queste cose, sì, la poesia sul poesia tavolo. L'aureola con la stagnola in testa. Sì, una cosa. La porporina. La porporina. La porporina. Ma che facevi? Cantavi rumore a Natale? Ma perché la porporina ti mettevo? È stato geniale. Sì, ho sembrato. Mamma, figliolo, ma che fai? No, la porporina non l'ho messa. Tu le dicevi le poesie di Natale? Io? le poesie di Natale quando eri piccolo. Ma beh, sei piccolo, sì, smettila, sei ancora piccolo. Se le facevano leggere davanti a tutti, il dramma della porporina, mi vergognavo da morire. Il dramma della porporina era la letterina di Natale, che sì, a tavola, se un nonno ci aveva 5 nipoti, dopo mezz'ora la tavola era piena di porporina. Sì, perché si metteva la colla sulla cosa e gli si tirava la porporina sopra. Invece mi ricordo i capelli d'angelo che si mettevano sull'albero. Che sono i capelli? Sono quelle argentate. Ah sì, per un attimo pensavo, che adesso non vanno più di moda, ma negli anni 90 andavano. Adesso vanno le parrucche, sull'albero. Sull'albero con le argentate. Sì, i capelli d'angelo, i capelli d'angelo si chiamano. Questa è un'altra generazione. Sì. Non più di moda. C'è il Natale 2.0. Esatto. C'hanno l'albero sul computer che appare. Sì. Cioè, voi, oddio, che immagine triste, però. Ho capito, succede. Tu fai l'albero. Sì, sì, sì, assolutamente. Io lo sono personalmente. No, no, siamo tradizionalisti noi. Anche tu, Cammino. Assolutamente sì. Tu quanti figli hai, Roberto? Io ho un figlio, Michelangelo, che ha quasi 16 anni. Pure te, Michelangelo. Ma sei veramente cattivo. Ma insomma, ma puoi chiamare Michelangelo un figlio? Ma perché ti... ma insomma, lo chiamo Pelé e di giocare a pallone per forza questo. Cioè, sì, non puoi chiamare Michelangelo. Il suo migliore amico si chiama Leonardo, andrà, no, ma ci manca Raffaele, avevamo fatto Tartaruga Ninja. No. Sì, sì. Ecco i Tartaruga Ninja, no? Pensavo degli scultori. Degli scultori, no, no, no, no. Lui, ma lì era onore di papà, perché noi da buoni, di buone origini meridionali, papà in realtà si sarebbe dovuto chiamare Michelangelo. Papà poi, tuo, Michele? Mio papà, ah, perché sì. Michele, si Michele. Si chiama Michelangelo. E poi insomma, per un errore all'anagrafe, è stato registrato come Michele, ma insomma noi da bravi insomma palermitani d'origine. È vero, nome siete del siciliani. Nonno, io pure, esatto, mi chiamavo Jonathan, però per un errore è uscito Giuseppe. Vabbè, ma queste sono altre storie. Insomma. Senti, ti ho dato una cosita di Natale, sì, leggiamola. Allora, non ho cantato, sì, uscendi. Sto blocco è veramente natalizio, quel Natale proprio. Ah, è Natale. Sono quelle cose che fanno bene anche al, sì, calcio. È una favola di Gianni Rodari, che credo, sì, che sia il migliore. Da questo punto di vista, quello che regala ai bambini o ai grandi, queste, sì, piccole metafore, sì, che comunque rimangono. Me lo accompagni con la tua musica invece di chiedere ad Alessandro una volta tanto? Sì, ecco, in diretta. Te la senti, caporale? Tieni, già è partito. Se comandasse lo zampognaro che scende per il viale, sai che cosa direbbe il giorno di Natale? Voglio che in ogni casa spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d'oro e d'argento. Se comandasse il passero che sulla neve zampetta, sai che cosa direbbe con la voce che cinguetta? Voglio che i bimbi trovino, quando il lume sarà acceso, tutti i doni sognati, più uno per buon peso. Se comandasse il pastore nel presepe di cartone, sai che cosa, che legge farebbe firmandola col lungo bastone? Voglio che oggi non pianga nel mondo un solo bambino, che abbiano lo stesso sorriso il bianco, il moro e il giallino. Sapete che cosa vi dico io, che non comando niente? Tutte queste belle cose accadranno facilmente. Se ci diamo la mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Eh sì, sono quelle piccole cose che fanno bene al cuore, dai, ci sta, come la vita è meravigliosa che dovete vedere ogni Natale. Sempre, ogni sempre. Natale, ho detto ogni, prima, ogni Natale. Natale. Il Monello di Chaplin. No, esatto, quelle cose che se vuoi divorziare non divorzi più, te li sposi, sai, quelle cose, sei litigato con qualcuno, ce li fai pace, chiami, sì, tutti. Che poi io credo veramente fare pace con qualcuno dà ancora più soddisfazione che odiarlo profondamente, mi è capitato proprio... Anche se sono d'accordo con quello che ha detto Fabrizio prima, cattivi a Natale, buoni gli altri 364 giorni, sì, dai. Veramente, a Natale cattivi, non fai attraversare la vecchietta, fai lo scambetto, fai le cose brutte, cioè cose, sì, ovviamente relativamente brutte. Il Grinch. Sì, il Grinch, esatto, sì, i dispetti, esatto, dispetti, esatto. E poi gli altri giorni cose buone. Che hai mangiato? Natale? A Natale, dato che sono abbastanza goloso, certo, non mi sono risparmiato assolutamente niente. No, io ho il colesterolo a 3,20 a Natale. Ma guarda, credo che il mio ti supera perché tra lasagna, tortellini. Se si capisce perché bisogna mangiare di più a Natale, nelle feste come andate, sono i nonni, tu c'è... No, tu non ce l'hai. No, nonni, ormai no, purtroppo no. No, ormai non è grande, sì, per cui... No, no, no, è nonno papà e quindi con i miei nipoti si mangia, ma, no, ma c'è poi, una... la tombola, dai, che si è persa con i pipini. A proposito, io ho un pochino di come si dice Roma, di cocce dei mandarini, di cocce mandarini per fare la tombola, la quindi bellezza. Se dopo vogliamo chiudere in bellezza con una bella tombolata tombola e Pino tira i numeri, sì, esatto. Facciamo dire ai nostri colleghi, che ne so, 34, sì, 22, le carrozzelle, sì, 90, 77, la paura, sì, interpretati, esatto. Non è male l'applicazione così, lo sai, Chiamiamo tutti i nostri colleghi, facciamo ognuno dice un numero. Però solo i numeri per la tombola. Solo i numeri per la tombola, solo i numeri per la tombola e col cartellone. Tu, no, fai, sei divertente. Una volta si mangiava perché, a parte non si mangiava mai durante l'anno, insomma, erano un'occasione per mangiare. Per cui poi alla vigilia si mangiava ancora di meno perché poi c'era la messa, per cui il giorno di Natale era una delle 3-4 occasioni nella vita, nell'anno, esatto, insieme, in cui si stava insieme e si poteva mangiare. Quindi è rimasta quella tradizione. Noi mangiamo tanto sempre, il giorno di Natale si mangia ancora di più. Però i parenti sono di meno di una volta. Sì, è vero. Qui mi prende un po' di tristezza, perché veramente i cugini, i nipoti, zii, tutti quanti insieme, eccetera. Ragazzi, adesso levate perché dobbiamo fare che gioca sì, a carte grandi. Il mercante in fiera, le cose da grandi, sì, eccetera, eccetera. Questo è un po'... si è perso e mi dispiace. Però, insomma, vabbè, famiglie ormai sono quelle allargate. Sì. Per cui ci sei cambiato i tempi, esatto, cioè, sono i miei 3 ex mogli, 4 12 sì, mariti, figlio di non è mio, è il fratello del tuo cognato. Ma noi per esempio a casa facciamo una cosa ogni Natale, il 24 sera però, che non so da dove arriva questa tradizione in realtà, credo che sia meridionale, facciamo la processione cantando Tu scendi dalle stelle in tutta la casa. Non state sì, bene. Giuro, ormai facciamo anche i video ormai perché è una cosa che comunque fa molto ridere anche. Ma secondo me fa 7 milioni di click una cosa del genere. Io vi dico, io vorrei sapere infatti, chiedo anche agli ascoltatori, chi continua a farlo? No, se c'è un medico all'ascolto. Ma noi dove siamo la facciamo in qualunque casa, ti con il bambinello, noi, lo fai anche tu, esatto, con le pentole. No, cioè, noi prendiamo le pentole. Ma non ti ricordi, questa è un'immagine bellissima. Si è aperta la cosa, poi sembra una trasmissione di calcio, che all'improvviso si montano tutti sopra. Scoop, no, scusate, allora, Daphne. Sì, con la famiglia alla, facciamo alla processione, in fila, esatto, si canta Tu scendi dalle stelle, c'è il più piccolo, certo, il più piccolo deve avere il bambinello. Il più giovane, esatto. E poi si bacia il bambinello tutti e poi si mette nella culla. Quindi l'hai fatto anche ieri? Tutti gli anni, ragazzi, ma anche se sono fuori, noi anche se siamo fuori lo facciamo, ognuno ogni chi fa le immagini, stanno tu, cioè chi fa i personaggi, com'è? No. E poi alla fine al presepe si mette il bambinello. Natale in casa Cupiello. Noi così arrivavano col bambinello che poi finisce in tragedia, chiaramente. Sì, però era proprio tradizione napoletana portare il bambinello nel presepe e tutta la famiglia in processione con le luci spente, con le candele a mezzanotte. La difficoltà è ricordarsi bambinello... Tu scendi dalle stelle con tutte le strofe, quindi ogni tanto c'è qualcuno che stampa i testi. Sì, anche perché dopo aver mangiato non ridere vi organizzate proprio. Sì, hai capito, Flavio? Bellissimo. Il prossimo Natale tutti a casa da. Sì. Guarda, lo propongo l'anno prossimo. Sì, tutti... anche i miei, vediamo come pensa la prendo. In processione giriamo tutti al tutti armonizzati con le voci. E tu, Eleonora, anche lo fai. Noi facciamo la stessa identica cosa, ma in più suoniamo le pentole. Ma è cattiveria quella, perché quella è cattiveria, non viene bene. Andiamo in cucina ognuno di noi, ogni cugino, sì, siamo 14 cugini. È cacofonico come suona, è brutto. No, è divertentissimo. Sì, fa ride, ma non è più tu sei pazzo, ma è tutto fatto insomma con criterio. Voi comprate, comprate, siamo armonizzati, loro andiamo comprano, a tempo, compriamo quella pentola, ma è un lambe molle, ce l'abbiamo già, prendiamo quella pentola che è in sol perché scritturano, è un acciaio, questa cosa, scritturano gli Stomp per Natale. Esatto, sembriamo gli Stomp, esattamente. Sì, lo Stomp è un gruppo che fa questi spettacoli solamente percussivi, no, eccetera, vabbè. Invece ieri noi abbiamo affidato... non me ne frega niente. Vito, benissima. Dai, 5 secondi. Mio figlio Paolino ha portato lui, c'ha 3 anni, è il più piccolo. Sta prendendo e che ha fatto? Ha portato lui il bambino Gesù nella culla. Anche noi abbiamo questa tradizione. Vabbè, su questa cosa ovviamente non posso intervenire come vorrei su di te. Buona, no, una cosa bellissima, però ti ringrazio. Non è che ha aggiunto nient'altro a quello che già ci siamo detti. No, non ha aggiunto niente. Ha fatto con stile. Ma che ha fatto con stile? Smettila. A tra pochissimo per l'ultimo blocco insieme. Voice Anatomy. Tanti auguri di buon Natale a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy. Ciao. Un augurio di cuore per un Natale sereno a tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy. Massimiliano Alto. A tutti gli ascoltatori di Voice Anatomy, un felicissimo Natale da Simone Mori. Anatomy. Eccoci insieme ancora, un ottimo Natale, so, starete ancora mangiando, sono quasi le 5, insomma non credo, avranno finito, avranno fatto la processione come voi cantando con le pentole, eccetera. Roberto Gammino, allora siamo in vacanza, che questo periodo insomma si riprende fra un po'. Insomma, beh, insomma sì, sai, mezzo e mezzo, mezzo no, il 27, 28 si lavora insomma, parte il 31. Sì. Senti, volevo ascoltare un momento perché è difficilissimo scaricare dei contributi per i film, perché c'hanno i diritti, per cui sono coperti, per cui o tiri giù il trailer o se no no. Però tu hai fatto anche un Vincent Gallo. Qual è quello a cui sei più affezionato di attori che doppi? Vincent Gallo sicuramente, Arizona Dream, quello è stato un film molto divertente, abbiamo fatto un po' di anni fa, dove la cosa particolare, lui era appassionato di cinema, di attori italo-americani, e si metteva davanti spesso al cinema a voce alta, davanti alla televisione, a ripetere le battute dei grandi attori. E noi infatti attori. Abbiamo un altro film, Vincent Gallo, che tu hai doppiato, non quello. Però hai fatto anche i Puffi tu. Sì, non uno dei Puffi, ho doppiato Neil Patrick Harris, era diciamo il padrone di casa dei Puffi, il ragazzo, esatto. Quello era il film. Quello era il film, sì, esattamente. Allora, ci ascoltiamo, poi hai fatto Casey Affleck, hai fatti tante, vabbè, insomma. Sì, però sei Melman, tu. Ho preso il posto dopo il primo film, dopo Fabio De Luigi, hanno rifatto i provini perché lui per motivi di esclusione. La giraffa di Madagascar. La giraffa di Madagascar, ne... Quali altri cartoni animati? Sono quelle cose che sanno tutti loro. Sì. Cioè, uno parla di film e di attori incredibili, poi ci vorrei. Hai fatto Julia Kendenai nella serie di Brito. Sì, poi. No, guarda, Melman sicuramente mi sono divertito molto. Adesso nell'ultima era glaciale ho doppiato lo Shangri-Lama. Nuovo lo Shangri-Lama del 5, esatto. È vero, vabbè, sono sempre poi, Diego lì. Vabbè. Scooby-Doo, tanti anni fa ho doppiato parecchie serie di cartoni animati di Scooby-Doo, del cane Scooby-Doo. E poi un altro molto divertente, all'epoca fu un grosso successo dopo i Simpson, era Cartman di South Park. Ah, è vero. Di sultane era schifo. Vedi come cambia voce. Ma stavo dicendo da dove l'hai presa, non la conoscevo. Con la voce si gioca. Quello è sicuro, e questa è la trasmissione. È la cosa più divertente, più giocare con la voce. Che sì, bella, sì. Ascoltiamoci una, rifalla un po' questa voce un attimo. Figli di sultane. No, facciamo la suoneria anche per lui, come è stato. Troppe me ne hanno chiesto. Paura Potter e le altre che si sono alternati, facciamo questa suoneria. Silenzio. 3 2 1. Figli di sultane. Te non dovete ridere sopra! Va bene, ci sta. Ascoltiamoci invece Vincent Gallo. La gente qui è stonata. Stonata. Insomma, una volta mi chiamano per togliere un chihuahua stecchito da una piscina. Sembrava un piccolo topo morto. Arriva un tizio e dice... Mi fa... Ehi, vuoi partecipare a un party di sesso orale? Io gli ho risposto... È durato 3 giorni. No, sembra no. Io lì non mi ci butto, Moss. E non puzza neanche. Né per Gesù né per nessun altro. Ma guarda, stamattina ci siamo alzati e l'abbiamo trovata così. È sempre peggio. Ma quanto è strano. È come trovarsi in un film dell'orrore. Certo, è strano. Nico dice che quasi sicuramente è colpa della cometa. Già, giusto, una cosa seria, la cometa. Ormai da queste parti succede qualunque cosa. Tempeste, misteriosi assassini... Film di successo dell'MGM. Ma quale cometa? Eccoci. Sì, questo era il film di Kaoris Maghi che ho doppiato, dove ho doppiato Vincent Gallo dopo appunto Arizona. Sì, sì, Los Angeles senza meta. O esatto. Los Angeles, Los dipende Angeles, quando capita queste cose. Dal direttore cioè, quello che dal chiede. Dal direttore quello che chiede. O Los Angeles. New capisce. York, addirittura New la York. S, Los, Los. Esatto, New York, vabbè. Però tu hai fatto Daniel Spud o Spud, adesso mi ricordo, Spud e Marfin, Trainspotting, nel primo. E al secondo adesso abbiamo fatto il trailer da poco, okay. Ed è imminente l'arrivo del seguito, dopo 20 anni si è riunita tutta la banda, sempre con Danny Boyle, regista, e sempre da un romanzo... Questo vuol dire che c'è Cristian Ianzante, che è la voce ufficiale di Radio 24, esattamente, che c'è venuto, Christian, monologone. Esattamente, e c'è tutta la banda al completo, e vediamo cosa hanno combinato in questo film. Spud è stato molto divertente, adoppiare è stato un film... Insomma, ormai 20 anni fa, sono passati 20 anni, ma assolutamente... Poi ho doppiato sempre in televisione la serie dei Tudors, ho avuto l'onore di doppiare Re Enrico VIII. Jonathan Rhys Meyers. Lui è un bellissimo attore. Bravissimo attore, è stato una bellissima attore, serie. Mi piace molto. Un altro attore bravissimo che fa è Nestor Carbonell nel Cavaliere Oscuro. Sì, come no, il sindaco, il ruolo del sindaco del Cavaliere Oscuro. E adesso sto il nuovo personaggio a New Entry in Criminal Minds, Luke Alves. È vero, quella è una serie che fate voi come società da... Sì. 18 anni, credo 10 anni, che sono arrivati 10-12 anni, non lo so. Dal primo omicidio, proprio, esatto. Che è successo è lo stesso nella attore storia. Che doppiavo su CSI Miami, che è Adam Rodriguez, e ha preso il posto di Morgan, insomma, dell'altro belloccio. Vedi la differenza dei tempi di tuo papà e nostri, che prima tu doppiavi Febbre d'amore quando si ama a Valle dei Pini, Falcon Crest. Febbre d'amore fatta anche quella, sono quasi 30 anni che ho iniziato. Sì, Febbre d'amore, cioè, e facevi queste cose, adesso invece le serie è cinema ormai. Ormai sì, ormai è cinema. Vedi che gli attori più importanti Westworld, fanno assolutamente, House of Cards, sono sì, la sì, più bella. Cinema lunga, come diceva esatto. Il figlio, suo figlio, dice, ma quando vede un film adesso dice, ma il numero due me lo fai vedere? Perché ormai sono convinti pure sì. I ragazzini che c'è un seguito a tutto. E invece c'è solo a Rocky che sti giorni sta andando in onda, non me ne so persone. Sì, c'è il canale Rocky, assolutamente. Mamma mia. No, vabbè, queste sono cose impossibili. Senti, voi volete ricordare che siete andati, anche se è tutto sì, esaurito? Tra, però. Tra poco scappiamo perché abbiamo la replica sì, andremo avanti fino al 15 di gennaio. Teatro Olimpico con Teatro Maurizio Olimpico Battista. Con Maurizio Battista, che sta andando veramente molto bene. Il pubblico gradisce tantissimo Maurizio. Vi gradisce più con Maurizio Battista o quando lavorate con Pino Insegno? Scusate. Mi permetto di dire perché Maurizio è un ma amico, quando, sto giocando. Pensa quando ovviamente. Faremo Pino Insegno, Maurizio Battista magari. E Barahona. Guarda che ci stiamo la parlando, proprio, niente con Maurizio ci guardiamo, vorremmo fare uno spettacolo intitolato I Gemelli, a questo punto I Gemelli, perché siamo figli, siamo opposti, cioè uno l'opposto dell'altro in tutto, capito? Per cui allora uno show must go on, sì, sì, ecco, visto sì. Che lo spettacolo deve Natale, continuare attimo, ok dai. Sì. Empty spaces, what we are looking for. Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Show must go. You can lay anything you want. Somebody me. To love. Show must go. And the champion's my friend. Mama, I face it with a grin. I never give a name. The song. Questo pezzo mi ricorda uno spettacolo con te, I Pin. Sì, che cominciava così. Tu quattro non arrivavi in scena, ovviamente nella finzione drammaturgica, e noi ripetevamo questo pezzo quattro volte. Quattro volte. Si cominciava, la gente applaudiva e dovevo entrare in scena. Però spettacolo cominciava, io perdevo la memoria. E con questa applicazione dell'iPin invece che dell'iPhone, le applicazioni che mi rimettevano nella testa mi riconducevano a ridiventare quello che ero, insomma. E loro cominciavano questo, sempre più corto ovviamente, non sì, sì. No. La gente ricominciava e dice, ma al secondo, vabbè, al terzo, boh. Perché, applauso sempre più piccolo, dice, ma perché stanno a come? Perché ricominciava la quarta volta. Sì, e invece, poi c'era un attore, direttore di scena che ci faceva segno di rifarlo, andate avanti, sì, andate sì, avanti è colmate vero, il vuoto. Succede di con scena. Maurizio Battista? No, no. Maurizio, è preciso. Maurizio, guarda, è straordinario, è bravo, ma preciso no. Vero. No, no, me lo posso permettere. Più perché... di te, dai, Pino. No, io sono della Vergine, per vero. Cui sono precisissimo. Ma anche lui nella sua follia e merita tutto il successo che ha. Che farai? Perché sto domandando a Roberto, che succede adesso? Che stai doppiando? Che stai preparando? E adesso dovrà uscire un film dove ho doppiato Jeremy Renner, un film di fantascienza molto bello, Arrival. Arrival è bello, andano benissimo molto, negli Stati sì, Uniti. Molto, molto. E poi piaccio questa cosa dell'arrivo degli alieni, che pure, poi atterrano sempre, Flavio, a New York, a Los Angeles, a Maya. Chicago. Ma è Bibbo Valencia. No, cioè, a Crotone. Crotone. No. Pure a Roma, sì, no, no. Roma viene distrutta. Sì. Roma se c'è un'inquadratura che sfondano San Pietro. Sì, esatto, il Colosseo, San Pietro lo sfondano. A Parigi buttano solo già Fraiano aveva scritto un marziano a Roma, l'unico. Sì, che... è vero, è vero, a me mi fa ridere. Senza quegli effetti speciali. Ma anche nell'Iowa scendono. Sì. Cioè, comunque loro riescono a essere direttori della comunicazione di se stessi meglio di chiunque altro. Cioè, nell'uomo dei sogni, Kinsella, film straordinario, sì. Ai livelli della vita meravigliosa, ricostruiva questo campo di baseball che dice costruisce e lui tornerà. E torna la squadra che era morta, che erano tutti morti. È tipo il grande Torino, insomma, torna sì. A giocare su quel campo e uno di questi giocatori guarda lui e dice questo è il paradiso e lui fa no, è l'Iowa. Ma, cazzo... ma dai, è come se mi dici scusa, questo è il paradiso, no, è Torpignati, cioè no, no, cioè, no è no. Sulle Marche sì. Cioè non, cioè, non funziona, funziona. No. Capito? No, è l'Umbria con tutta la bellezza di questi posti che sto nominando, certo. capito? Non funziona. Invece no. Tu dici che cos'è? No, è l'Iowa, cazzo. Wyoming. Capito? Il Wyoming. Capito? Sì. Cioè, sono straordinario. È proprio il suono. Sì, Wyoming. Sì, sì. Sì, dillo al doppiato. Di Massachusetts. Massachusetts. Quando ti cambiano il doppiato. Prova a dirlo di seguito attaccato ad altre parole. Ma anche questo è Natale. Signori, siamo arrivati alla fine di questa... puntata natalizia. Io ringrazio i Barahona della loro grazie grandissima disponibilità. Grazie a tutti. Grazie a questi due amici, colleghi, ma straordinari interpreti, Flavio Aquilone, grazie a Roberto Cammino, grazie, grazie a te, alle persone che abbiamo sentito per telefono, come Fabio Ferrari e il bravissimo Fabrizio Bracconeri. Grazie a voi, vi auguro un buonissimo Natale. Noi ci sentiamo a Capodanno, cioè da domenica, quest'anno è sempre festa. E dai. Ciao, auguri a tutti.